nelle puntate precedenti. Allora, nelle puntate precedenti è apparsa un grattacielo dal mare, praticamente, anzi più di un grattacielo sostanzialmente. È apparsa questa creatura, appunto, che abbiamo appurato, sta pregando Liviagon. Detto questo, i nostri cari avventurieri hanno cercato di investigare un po' a modo loro. Appunto, i cavalli tanto erano troppo spaventati per essere utilizzati, quindi siamo andati a investigare. Siamo andati in spiaggia, abbiamo raggiunto il corpo senza testa di Naya. E ovviamente Miff ha avuto un piccolo breakdown, poverina, è morto suo amico. Anche Adone è rimasto male a modo suo. Nibel e Lieto non lo conoscevano, cioè Lieto sì lo conosceva, ma molto superficialmente. Poi è Lieto, cioè potrebbero ammazzargli davanti alla mamma, credo di dire beh, grazie. Ma è perché sua Probabilmente mamma. è dietro che la mappa. Vabbè. Esatto. Ciò, appunto Adone ha fatto le sue cose da Adone, quindi vediamo se c'è un'anima da rubare. È andato, ha avuto questo momento di comunione con Naya. Lieto ha detto, sai cosa? Lo copio, perché ormai quello fa. E insieme hanno scoperto cose. Hanno scoperto che appunto l'obelisco che era lì davanti, che appunto Nibble stava osservando un po' analizzando, è un punto per segnare le ley line di questo mondo, che appunto Naya è morto su una ley line. Ci siamo, non serve che rispiego tutta quella cosa lì, io la rispiego. No, va bene, va bene. Perfetto. Dopodiché decidiamo giustamente di fargli una tomba, gli facciamo una tomba. Lieto lascia lì una collanina, che ancora non abbiamo capito perché, cos'è, eccetera. Adone fa i suoi ossequi. Dopodiché decidiamo di andare verso la creatura che è emersa e proviamo a parlarci e interagirci. E abbiamo appurato, se non erro, che è lì proprio perché nella centrale lì davanti dove sta pregando c'è Liviagon, solo che, o almeno questa creatura è più o meno consapevole che lì c'è Liviagon, non sa che è tenuto lì contro la sua volontà e per il momento va bene così. Decidiamo Tutte congetture di vostre, eh? Cioè, nessuno vi ha sì, detto queste sono queste cose. congetture. Andiamo, iniziamo ad avviarci per raggiungere finalmente Esbosan, finché becchiamo Devin che sta fumando una sigaretta sotto un albero e Miff, bella, tranquilla, caruccia, come dice, sai cosa? T'ammazzo, solo che è una pippa ed è una cagasotto e non va fino in fondo con il lavoro. Citando parole di Sara, ma a livello meta bisogna sempre ammazzarli, tizi, perché altrimenti poi ritornano. Va bene. Miff, giustamente, perché passa, ha detto non finisco il lavoro e quindi ha lasciato andare Devin, che abbiamo scoperto successivamente, non è che è sparito da nulla, è diventato un sasso, Non è lo rimasto lì sapete, contro i vostri tutti. personaggi non lo sanno, l'avete Noi non visto lo sappiamo, fuori. noi player sì, quindi diciamo Sara, cazzo. Detto questo. Detto questo, andiamo avanti. E abbiamo. Cos'è? Effettivamente è un po' di viaggio per. No, stiamo andando a Esbosan. La sessione si è finita con noi che stiamo andando a cavallo adesso, perché Passando cavalli. verso il bosco. Esatto, passando verso il bosco. I cavalli si sono ripigliati, siamo a Sì, cavallo. non galoppano, ma cioè No, no. vanno. Ogni tanto li vedete che si guardano alle spalle. È il 22 ottobre 1622, sono circa le 4 passate del pomeriggio. Non avete un orologio, quindi non avete un'idea precisa dell'ora, ma circa sarà quest'ora qua. Due di voi hanno un po' fame, due di voi no. Io vi dico questa cosa perché potrebbe o meno essere rilevante tra un attimo. Avete appena superato il bosco meridionale dell'isola. Dalla mappa si legge che si chiama Gabagoon, per immettervi nel bosco orientale, che si chiama Gabadogu. È la parola bosco orientale e bosco meridionale nella lingua del luogo. Oltre agli schiamazzi degli uccelli spaventati dalla creatura enorme che sta oscurando il sole, l'area sembra tranquilla. Vedete in lontananza la strada principale, per nulla trafficata, e dall'altro lato, poco più in là, il mare. I cavalli proseguono con cautela, spesso si girano per guardarsi alle spalle. Vi chiedo se volete dire qualcosa, fare qualcosa, interagire fra di voi. Boh. Non c'è problema, eh? Cioè, se volete vado avanti e basta. No, sì, mi fareste in silenzio. Siete in una profonda meditazione. Poi faccio dalla vedetta, ora attorno. Ok. Arrivate a un punto in cui dovete addentrarvi leggermente nella boscaglia per non essere troppo scoperti. E quindi semplicemente i cavalli iniziano a entrare in questa zona di sottobosco. Proseguite per quasi un'ora in questa zona prima di sentire un suono diverso dagli uccellini, dalle cose. Un suono che a metà tra un belato e un muggito. Un... Io quando? Cosa volete fare? Da dove proviene più o meno? Dall'interno del bosco. Non è proprio un detour, sì. Cioè andando dritti più o meno andate verso questo suono. E era solo, cioè è un verso di un animale? Sembrava il verso di un animale. Alzo la manina. Riesco? È un suono di distress o è solo un suono? Cioè... Nibel, se vuoi usare Speak with Animals, sì. Il suono a te suona così. Faccio del mio meglio per fare l'impression di questa cosa. Consegna a domicilio, cibo in coso. Okay. Vuoi dire le parole senza accento? Perché mi sono perso. Cos'è che hai detto? Consegnato? Ma non le capisce male. Cioè, ok, giusto. È gracchiante, è strano. Ha detto tipo consegna a domicilio? Tipo domicilio, dopo che ho capito. Vuole del cibo? Questa creatura? No. Non l'ho ben capito. Osserviamola da lontano. Sì, magari cerchiamo di aggirarla. Vi chiedo come vi siete disposti. Siete tutti a cavallo. Adone terzo, Nibel quarto. State in fila indiana. Cioè, come volete. C'è spazio per andare come cazzo vi pare. Non fate andare Miff prima, non andrebbe prima. Vogliamo andare le due? Ok, dai. Vogliamo fare Nibel lieto e le due donne dietro? No, adesso è un uomo, però... Lo so. Yeah. I due bottom. Miff non la giudicherei mai come vero, bottom. Vero. Lasciamo quei cavalli e andiamo avanti per una decina di metri per vedere come la situazione. Ma i cavalli cosa ne pensano di questa cosa? Sono di questa zona i cavalli. I cavalli rispondono al Nibel se li interroga sulla questione. Sì, lo stavo chiedendo a Nibel in realtà. Sì. Quello simpatico è tipo, e che è stato? Fare. Io non lo so. E gli altri invece sono tipo, è un animale. Viene dal bosco, deve avere fame. Siete disposti ad aspettare qua 5 minuti mentre controlliamo in avanti, così evitiamo di mettervi a rischio? Il cavallo, il tuo, si guarda intorno, ti fa capire che è pieno d'erba e quindi hanno anche qualcosa da fare. Iniziano a mangiare l'erba. No. Do una stropicciata alla criniera e scendo da cavallo. Ok, vado in avanscoperta un attimo. Sei sicuro di andare da solo? Sì, sono quello che ha a nascondersi più alto nelle schede. Canon 2 metri e 10 di Cristiano. Si mimetizza nel bosco. Sembra un orso qualunque. Questo che fa paura, l'orso quando si nasconde. Allora, no, fa l'albero, fa orsi. Non lo seguite nemmeno, state proprio lontani. Voi tre? Ditemi voi. Ok. Sì, allora, mi devi fare un test di sopportazione, endurance. Non so come si chiama nella scheda. Di resistere, dici? Resistere. No, di sopportare, più 6 hai. Ah, ok. Allora, succede. 11. Non ti dico per cos'era, perché era una cagata, quindi semplicemente riesci ad avvicinarti silenziosamente e quello che vedi, ho bisogno di cambiare la musica, quello che vedi davanti a voi, è davanti a te, perché sei solo, I beg your finest pardon, è una bestia, una creatura molto grossa, più di 3 metri di altezza algarrese, e che ha una lunghissima coda. Ma è un coso! Non so il nome, è un coso! Non so il nome. È un coso. E questa creatura è più di 3 metri, okay, quindi è quasi 2, no, non è vero, un nibel e mezzo di altezza. Quando sta dritta, e poi ha la coda che è svariati metri dietro. La coda sarà sui 15-20 metri, cioè una cosa veramente lunga. E è sporca di sangue, cioè ha la barba tutta impregnata di sangue. E intorno alla creatura ci sono 5 persone. Di queste, una è a terra. Ho le immagini di tutte e 5. Ora cerco di farle stare in un unico screenshot, così non vado fuori di testa a mandarlo. Lo metto in Fateless. Allora, i 5 sono 5 soldati dell'impero. Non avete dubbi, hanno un'armatura oro e nera che li contraddistingue. I primi 4 sono tutti armati, sono tutti in piedi e con le armi puntate verso la creatura. Sono tutti armati con lance, nonostante i disegni facciano presagire dell'altro, mentre la quinta è a terra, sanguinante, e Anibel sembra priva di sensi, se non direttamente morta. Ti sei avvicinato furtivamente, non ti hanno notato né la creatura né i 5. Ti vorrei chiedere cosa vuoi fare. Mi sembra una situazione di combattimento, chiaramente, tra la creatura e i 5 soldati. Chiaramente la creatura ha colpito quasi a morte, se non a morte, la ragazza per terra. Sono tutti molto giovani, hanno tra i 20 e i 30 anni. Ok, mentre sono lì che si menano, allora indietreggio per avvicinarmi agli altri. Ok. Quando arrivo dagli altri dico: 5 soldati e una creatura enorme, sembra che stiano combattendo. Soldati dell'impero. Lasciamo che si ammazzino tra di loro? Ti direi di sì. Sì, non credo sia una... Meno che poi non diventi un problema per noi dopo. La creatura, cioè, o i soldati? Sì, la creatura. Finito con loro, deve venire da noi. È qualcosa che potremmo vendere la creatura, secondo te? Sicuramente del materiale si può ricavare. Sembra una sorta di, non lo so, una capra enorme, più grande di un cavallo, però ha soltanto le zampe anteriori e il resto è una coda. La coda è pelosa, cioè è a forma serpentina, sì, ma sì, è coperta di pelo. Alla peggio possiamo scappare. Sì. Per ora possiamo osservare come va la situazione. Se vediamo che i soldati indeboliscono abbastanza la creatura, possiamo intervenire. Anche il viceversa, sì. I soldati meno dell'impero, Uno di loro sembrava gravemente ferito, quindi non mi sembra che stia andando particolarmente bene la situazione, però chissà, magari possono ribaltarla. Andiamo a vedere. Ok, quindi il vostro piano è di guardare da lontano? Sì, lasciamo però, i cavalli legati da una parte. No, ho parlato con loro, possono rimanere qua a brucare nel frattempo. Allora direi che ci avviciniamo tutti. Ok. Mi fate tutti un test di nascondersi. E perché farò uno? Mi ha tagliato la voce, penso che era il test. Verde, nascondersi. Mi fatto 10, allora. Io ho fatto 2. 13. Tutti vi avvicinate furtivamente, tranne Lieto, che con il suo 3 fai rumore, cioè in qualche modo calpesti un ramo, fai qualcosa di funny, che attira l'attenzione di esattamente uno di loro, dei soldati, non della creatura. Dammi solo un secondo. L'attenzione di quello coi capelli rossi, il secondo nella lista, che si gira verso di te, fate eye contact, e ti urla: portate in salvo la ragazza! No! Scusa. E la... Homer Simpson che scompare nella siepe. Sa dove siete. E ti sta fatto cenno indicando la ragazza per terra. E mi giro verso i miei cespugli nascosti, che sono in realtà i miei compagni, I guess. Magari possono darci informazioni. Magari non sanno che siamo ricercati. Dai, aiutiamoli. Se non altro abbiamo un debito, se riusciamo a salvare la tipa. Hanno un debito. Magari riusciamo a salvare una delle vostre due teste, che dici? Quello sicuramente. Ok, come procedete? Allora, se il party, cioè, se vi danno positivo, Lieto va. Senso, cioè, se vi dico che va bene, mi incammino verso la tipa. Sì, Adone dice: noi tre possiamo prendere di sorpresa la creatura. Quindi volete aiutare a combattere? A sto punto. Ok, per il momento non setappo la mappa. Cioè la tengo così, vi do una parvenza di turn order, ma non è così importante, cioè è molto più roleplayish come la voglio fare. Mm-hmm. Aspetta, dico gli altri... Cioè mi sono accorto che non ho visto solo Lieto. No, cioè quando Lieto ha fatto casino si è girato questo e ha visto che ci sono altre persone dietro, non siete così invisibili. Okay. In realtà non ci hanno detto di combattere, possiamo anche soltanto portare via la ragazza e basta. Ditemi cosa fate uno per uno e lo fate. Biff si rivolge a Nibel e gli fa: senti, ma non è che puoi capire perché questa creatura è arrabbiata? Magari gli hanno fatto qualcosa. Provo ad ascoltarla solo dell'impero. Provo ad ascoltarla di nuovo per sentire se sento meglio la voce. Hai una vibrazione, cioè Mif ti ha instillato nel cervello che questa persona ci abbia, cioè questa creatura, questo mostro ci abbia dei problemi. Cioè, quindi quasi a livello subconscio è come se tu le comunicassi questa cosa. È molto, qual è il termine? Molto empatica la creatura, quindi recepisce questo tuo retropensiero e dopo aver ripetuto cibo in casa buono, dice tra virgolette, comunica: Senic? No, non ho paura, ho solo fame. Sembra affamato. Non predatore. Ok, ho detto. Cos'è che ha detto? Ha detto Senic. Cazzo è? Biff si gira verso Adone e gli fa: sei tu l'esperto? Io. Senic mi dice nulla, no! Vuoi fare un test di geografia? Dai! Vai Adone, faccio un bell'1. No! Geografia sai? 8 più 3. Quindi 1. È la giornata di Adone questa. Perfetto, sì, veramente. Ma infatti è un fire! Come si chiama il Mar Mediterraneo in Fated? Okay. Come si chiama? Quindi per cui non lo so, Senic? Marsenico. Marsenico, ok. Quindi Senic, cioè, sto parlando del mare? I fucking guess. Devo fare un test di geografia, non di parlare con gli animali. Esatto. E allora io urlo ai soldati: avete del cibo da dargli? I soldati nel frattempo stanno fightando. Cioè, sono hai armati ragione, con scudo e... Hai bad. Sì. E... I'm actually. Sai cosa? Faccio uso Every Talk. Non so se funziona così. Posso usare Every Talk per parlare a tutti i tizi? Puoi farlo, il punto è che puoi farlo normalmente parlando in italiano, cioè. Per essere più non fa nulla di diverso. Vabbè, allora Adone semplicemente si avvicina un pochino e gli dice... Puoi parlare anche con la bestia con Every Talk. Sì, è l'unica. Sì, però alla bestia non posso dire prendi il cibo da loro, devono essere loro a dare il cibo. Non posso dire, scusa, fra, vai a rubare nelle tasche, accucciati e fai il giro, no. Io l'ho sentito e dico ad Adone, noi abbiamo ancora della carne umana. Per il romano? Sì, per il romano. Sì, però tanto sta incominciando a marcire, ci durerà per un po' di tempo. Prova a dargliela allora. E vengo con te. Ok, ho bisogno che facciate i turni uno alla volta però. E direi che partiamo da Lieto. Lieto si avvicina alla ragazza a terra. Ok. Noti due cose. La prima è che è berber. La seconda è che è 1,95 m di donna, corazzata, e la sua armatura è di acciaio. Questa cosa è strana perché da diversi anni, da quando ci sono le centrali, I guess, le armature di acciaio non si usano più tantissimo. Si usano delle armature imbottite perché tanto se una cosa ti... ti trapassa anche se c'è l'armatura d'acciaio, non ha più molto senso. Okay. Per sì. Cui, però invece questi sono corazzati, sono tutti soldati con armature d'acciaio e stimi che peserà sui 110-120 kg il tutto. Riesco a trascinarla cioè, non è un problema, sollevarla di peso sarebbe un pochino più importante. Sì, faccio sì, fare sì. Un roll di sollevare lo stesso. Però può Nifa aiutare Lieto in caso, cioè potete collaborare. Sì. Esatto, allora agiscono insieme. Nif non parteciperà al fight. Sì, fai 2 di 10 tu, Ika. 2 di 10? Lieto. Tirane un altro. 17 è andata plus. Così bene che con l'aiuto di Nif puoi anche caricartela in spalla se vuoi. Ma magari mi spassa. Ok. Pesa tantissimo, è sanguinante, è... riesce a vedere dal colore della pelle, cioè dal fatto che è sbiancata e ha le labbra viola, che sta morendo. Cioè sta morendo dissanguata perché c'è un blocco della sua carne che manca dal fianco e la sua armatura è stata cut off clean. Sì. E nessuno di noi sa curare in nessuna maniera. Io potrei effettivamente curarla, quindi forse è meglio che vengo con voi. Adone? Facciamo che... Tanto Adone non ha castato Every Talk, quindi non può comunque parlare con la creatura. Aspetta che controllo bene. Ok, facciamo che... vado con loro e casto Yu-Yu su di lei. Yu-Yu è un modo per prendere tempo, cioè crei una cosa di legno che ferma il bleeding, ma non la stabilizza. No, le faccio recuperare un punto vita, va. È un punto vita per minuto, cioè fuori dal combattimento. Ah, merda. No, che va bene, cioè recupera lentamente vita, però non è uno stabilizer. E, sì, non ti faccio rollare, ovviamente non ha senso, perdi due di mana, quindi perdi uno di mana e uno di fatica. E guadagni un punto esperienza a magia naturale. Te la segno io. Grazie. E avete effettivamente stabilizzato la donna, che ora pesa altri 4 kg in più, perché ha un blocco di legno. Nibel. Io tiro fuori la metà della carne umana che ho nello zaino. E usando sprinter corro nella direzione lontana dalla creatura e dai soldati e alzo la carne in mano. Vuoi questa, vero? La distrai con successo la creatura, che si ferma a guardare la carne e dice, in un modo che riesce a sentire solo te ovviamente, No, che schifo! Carne fresca! Questo però la distrae abbastanza da permettere agli altri quattro di colpirla sulla coda. Sono tutti e quattro armati con le picche e vi faccio una breve descrizione uno per uno di quello che fanno. Il biondo scompare e ricompare sopra di lei e gli pianta la picca sulla schiena. Cioè, tra la schiena e la coda, non si capisce dove inizia e dove finisce. Quindi ha usato una magia di teletrasporto di qualche genere. Ha usato jump. quello coi capelli rossi che aveva gli aveva dato un ordine fondamentalmente si limita a colpire una delle due zampe mettendosi, posizionandosi in modo da coprire un lato e tenendo lo scudo alto. Quella, la terza, quella con i capelli neri, casta una specie di magia curativa su se stessa, aveva subito dei danni da un colpo della, da un colpo di coda, e infila anche lei la lancia sul fianco, mentre l'ultima, la bionda, che notate avere un'armatura leggermente diversa dagli altri e ha la maschera, sì, tira un colpo con la lancia e casta Expel Evil. Credo che tutti voi conosciate Expel Evil come spell. Quindi cade un fulmine dal cielo che colpisce la creatura. Al che... Sì, forse non l'hai mai vista. Gli altri tre sono sicuro che l'hanno vista tutti. La creatura reagisce su di loro facendo un colpo di frusta con la coda che colpisce tutti e tre tranne quello che c'ha sopra. E tutti vengono feriti e spinti leggermente indietro, tranne quello dei capelli rossi che tiene la posizione con lo scudo. E l'altra cosa che fa la creatura è rigenerarsi, cioè vedete i suoi tessuti che iniziano a guarire dopo che mette un velato. E infine fa un una mossa del genere all'indietro e con le corna cerca di colpire quello alle sue spalle. E questo lo rolla a differenza degli altri. Ma lo manca, ma non riesce a prenderlo. Lui viene, cioè, non viene disarcionato, scende lui dalla creatura. Tocca a voi, faccio fare il turno a Nibel, che è quello più critico. Allora, Nibel rimette la carne nella borsa in maniera raffazzonata. Casto... Dice, Irumaru, scelgo te. Casto Overpower. E scatto verso la creatura con l'intento di afferrarla per le corna e sbattere la testa a terra per pinnarla a terra. Puoi rollare per colpire come se fosse un attacco. Sì. Quindi più 8 milioni. Com'era? Aspetta, fammi controllare. Fisico più 2, quindi 6. Senza armi era. Precisione per ogni punto di competenza, quindi c'ho più 2, quindi è più 8. Okay. 9. Uso prowess. Sì, perché non andava a segno così. Vai. Tirane un altro. Perfetto. Di 20 in totale. Sì. E... mi rolli i danni. Sì. Danni che ho... Fammi ricontrollare se ho tutte robe. Credo 2 di... Cioè un di 6 più 2, sicuramente. Tira i danni, tu attacchi senza armi metà del tuo rosso, quindi più 2, quindi un di 6 più 2 e basta. Sì, mi pare di sì. Iron Enzo non aggiunge niente. Non credo aggiungi. Sì. Ok. Kickbuster non aggiunge niente. Sì, è più 2. Uh-huh. Quindi roll di 6 più 2. 8. Non era quello che volevi fare, ma afferri le corna con così tanta forza che spezzi uno dei due corni. Quindi okay. Non riesci a buttarla per terra, però gli stacchi, perché sembra un maschio dalla voce che senti solo tu, gli stacchi un corno clean che ti rimane in mano proprio. E hai finito il turno, okay, perché hai fatto... credo che... Quell'altro sono ancora afferrato all'altro corno, oppure... hai perso... cioè, si tira su quando gli stacchi il corno, quindi perdi... così c'è il grip. Avrei il secondo attacco con il calcio, volendo. Posso farlo? Sì, io avevo considerato che gli facevi anche quello, cioè, tutto in un'unica azione per rompergli il corno. Ah, boh, dimmi tu sì, se sì, sì, secondo. Ok, vai, vai. Segnati tutta l'esperienza di questa cosa. Sì, ne ho uno. E il corno te lo puoi segnare nell'inventario. Capri corno. Bella, questa. Proprio una bella battuta. Vabbè. Ciao, mamma di Saga. Ok. Ok. Vi chiederei cosa vogliono fare Lieto, Adone e Mif, ma aspettiamo un attimo, immagino. A meno che non vogliate fare qualcosa che non dipende da Mif. E Lieto... cioè, cerca di portare la tipa via dal combattimento a questo punto. Ok. Si era malmessa com'è anche con la patch di legno di Adone. Non... Io scusatemi, sono persa un chunk. Da dopo che... mi ve l'ho spezzato le corna così. Niente, ti stavamo aspettando. Sta... sta chiedendo cosa scusatemi. Fare. Sì, sì, sì. E quindi sì, cioè... vado verso i cavalli, tipo. Sì, sì, sì, corri. Li abbiamo lasciati. Per quanto una persona con 120 kg di mattone sì, sì, possa sì, correre, sì. 124. Ah, sì. Ok, Lieto se ne va. Voi due? Mif e Adone. Esatto, Mif guarda Adone e fa ciò che vuoi fare. Per me potrebbero morire tutti. Ci tengo che Nibel non muoia. Già. E... fammi vedere cosa posso fare. Cosa? Perché no? Perché non dovrei utilizzare la mia bacchetta magica con cui posso masterare... con Weapon Master? La vera domanda è su chi? Sulla creatura. Ok. Oh, era una domanda legittima. Sì, sì, era una domanda legittimissima. Però poi c'è, cioè, uno l'ammazziamo e basta. Gli altri quattro si spera che non ci vengano ad ammazzare. Altrimenti i cuori di Dio. No. Allora. In caso mi ti dà una penny, ma glielo devi chiedere. Una vocina della tua testa ti suggerisce di non usare i cuori di Dio davanti a 5 soldati dell'impero. No, chiaramente, chiaramente no. No, no, tranquillo. Siamo già. Okay. Ci ho dato. Ah, i cuori. Nah. Tra l'altro, mi devo fare una cosa. Miss again, non partecipo al fight. Scusate, devo andare in bagno. Vai, vai, vai. Vabbè, io uso la mia bacchetta magica di sto cazzo per colpire la capra. 10 per colpire. 5, ti calcolo. Sì, ma non è abbastanza perché hai più 3 e basta, sale di livello la tua bacchetta magica. Quindi dal prossimo... non potrei attaccare. Assolutamente no. Però il primo livello della bacchetta magica non ti dà nulla. Ok. Quindi... è salita, però hai missato. Scusami, posso... aspetta. Posso usare Future... posso usare Rewind? Vuoi usare l'abilità che hai 4 volte al giorno per ritirare l'attacco? Per me puoi. No. No, perché... per me puoi. Dai, perché mi sento giudicato così? No, no. No, beh, perché altrimenti non c'è voglia di... fare... 2 volte al giorno, scusa. Dai, facciamo Summon Familiar. No, sì, posso fare Summon Familiar. Certo, l'attacco con la bacchetta è un attacco, questo invece è una spell. Perfetto, allora dai, faccio Summon Familiar e mando Patrizio ad attaccare il Capricorno. Allora, ti tolgo di nuovo il mana, prendi 2 di fatica e guadagni un punto d'esperienza magia naturale. E hai un coniglio evocato che lancia l'attacco. Tocca immediatamente al coniglio, perché assumo che tu ti sia mosso in tutto questo. Sì, fai conto che io intanto sto iniziando a segnarmi mechanical speed. Sì, quindi ti puoi muovere di un botto. Sì, faccio di 10 per attaccare col coniglio. Ok, sì. Dai, Patrizio! Messa. Patrizio! Oddio. E Mif ti riassumo la situazione. Lieto se ne sta andando verso i cavalli. Nibel sta fightando head on la capra e Adone sta cercando di fightare con scarsi risultati per il momento. Mi si appoggia ad un albero e guarda. Non fai nulla? No. Ok. Se vedo che Nibel entrerà in difficoltà, allora aiuterà Nibel, ma per ora non penso faccia nulla, penso guardi e fatti. Magari dà un'occhiata alle sue spalle per vedere dietro. Però mazza, insomma, resta lì. Dopo che lei ha rotto il corno, la creatura è squilibrata per quanto riguarda la testa, non riesce più a muoversi con... è sbilanciata, volevo dire. Quindi cerca di colpirti con gli zoccoli. No, sono un 6 e un 4 perché attacca due volte. Sono un 10 e un 8. Missano entrambi. Sì, ho 13. Cerca di battere le zampe per terra e tu abilmente manovri intorno ad esse, non prendendo l'attacco. Con la coda la sbatte e attacca di nuovo tutti i membri della legione. Questa volta li prende tutti e esegue 3 azioni per turno, nel caso me lo stesse chiedendo. In realtà ne esegue di più, ma questo è un altro discorso. E compare un sigillo nero con una stella rovesciata e tanti segni strani sopra la sua testa. E la creatura sembra empowered da questa cosa e si rigenera parte del corno, o meglio, la parte che hai spezzato sanguinava, smette di sanguinare. E cos'altro c'ha? Basta, fine del suo turno. Tu hai 4 soldati di me? No, niente. Dopo, quando sarà il turno di me, te lo chiederò. Sì. I 4 soldati fanno più o meno quello che hanno fatto prima, cioè si dispongono in modo da attaccare da tutti i lati. Anzi, questa volta concentrano da tutti i lati gli attacchi sulla coda ed effettivamente riescono a staccarne un bel pezzo. La creatura è ancora viva, anche se gravemente ferita. Non vi faccio la descrizione dettagliata dei loro attacchi. Possiamo partire da Nibel, credo. Se puoi trovare una cosa. Mi recupero quando riposi, punti druid. Però faccio... faccio un attacco con un pugno diretto alla zampa, tipo proprio alla giuntura, per sì, cercare di spezzarla, e poi un altro attacco col calcio. Ok. La doppietta. Allora, ho di 10 più 8. Di nuovo. Sì, entra. 22 il primo attacco, roll di 6 più 2. 6 danni, secondo attacco roll 10 più 8, 16. Entra. 6 più 2, 5 il secondo attacco, 6 danni il primo, 5 danni il secondo. Mi segno un'altra ex. Perfetto, sì. E gli fai danno, ma senti che il suo osso è quasi come quello di un elefante, cioè è veramente molto spesso. È quasi innaturale lo spessore che ha, cioè ti sembra che un animale normale non possa muoversi avendo delle ossa così larghe, quindi è difficilissimo da rompere, però il colpo... vabbè, l'importante è che ho fatto danno. Esattamente. Hai ancora un'azione, e poi credo. Uso sprinter per aumentarmi l'evasione di uno. Perfetto. Lieto lo facciamo un paio di turni dopo, che sei fuori dal loro range. Sì, va bene. Finiamo va il combat. Vorrei sapere cosa fa Adone. Allora, com'è che è messa la creatura? Non ho tirato... ti dico una cosa, non ho tirato il D4 per la durata di Overpower, però... sì, vabbè, sia uguale. Sì, non durerà così tanto. È gravemente ferita, gli hanno tagliato la coda e gli hanno rotto un corno, Monster Hunter. Madonna beata. E vabbè, io lo attacco di nuovo con la bacchetta. Sì. Guadagni esperienza e non hai più carica della bacchetta, devi ricaricarla se vuoi usarla ancora. Va bene, va bene. Puoi ricaricarla in questo turno. E però stavo come la ricarica? Sì, prendi mi pare uno di fatica, aspetta che c'è scritto. Sì, prendi uno di fatica e un'azione extra per recuperare le cariche. Va bene, sì. Vai. Almeno ce l'ho carica. Sì. E dopodiché provo ad attaccare col coniglio. Ok. Di 10 per colpire, semplice. 7 4 11. Noti che come parte della roba strana, il sigillo demoniaco che ha creato prima, ha ripristinato l'evasione che aveva tolto. Cioè, quando tu attacchi e missi, l'evasione scende. Quella roba lì gliel'ha resettata. Minchia. Quindi lo evita solo per questo. E realisticamente, essendo così grande, evitare vuol dire che l'ha colpita in un punto dove non gli fa niente. Adore cazzo, icone di Dio su tutti. Basta, si è messo in imbarazzo abbastanza. Vabbè, stai facendo supporto, gli abbassi gli shreddi l'evasione. Cioè, gliel'hai già ridotta di 2. Vorrei sapere cosa fa Mif. Mif ha notato il sigillo e primo lo riconosce, secondo vuole capire religione. La funzione è chiara, la funzione, però insomma vedere se conosce il tipo, riconosce la magia. Aggiungi bonus che sei non mi ricordo. Su cos'è? Religione. Ah, religione più 3, 9. Unlucky. Allora, chiaramente è un sigillo demoniaco di qualche genere, forse l'hai anche visto, a memoria non riesce a pinpointare a quale diavolo corrisponde, però sicuramente nei tuoi appunti c'è una cosa del genere. Sei fuori dal combat, se puoi andare a controllare puoi. Infatti sì, cioè, te lo stavo per chiedere, si tira fuori il suo quaderno e inizia a sfogliare. Perfetto. Penso che sappia dov'è che è quel tipo di appunti, sì. Quindi spendi tutto il turno per fare questa ricerca. E alla fine di questa cosa qua sembra una variante di qualche genere del sigillo di Temofab, diavolo della dualità e robe varie. E avevamo dubbi? No. E ti colpisce il fatto che però non c'entri granché col diavolo, e probabilmente i simboli per i quali differisce, tipo le rune intorno e altri dettagli all'interno, tradiscono una natura diversa, più simile a quella che hai visto tra gli Shunar. Ok, quindi mi fa, allora se lo appunta, cioè si prende il suo tempo per appuntarselo, scriverselo. Per ora non hai notato niente di fuori dal mondo di Fated, cioè le creature possono usare forme di magia di questo tipo. Il sigillo è particolare, ma is it? Cioè, non l'abbiamo visto sui Romaru, quindi esattamente, cioè, non è così strano. Cioè, è strano se è la prima volta che lo vedi, ma in realtà chi studia queste cose ha un'idea che è più un side effect del cast della magia. Tocca la creatura e è veramente a pezzi, per cui fa il doppio stomp sempre su Nibel, altrimenti non l'avrei detto. Fa di nuovo 10 e 8 e li missa entrambi, perché sì. Ho 13 meno 2, quindi ero 11 più 1, 12, quindi col primo attacco arrivo a 11 e poi 10. 11 e poi 10. Missa entrambi. Ricrea quel sigillo sopra la sua testa, si rigenera di nuovo e poi si gira per attaccare di nuovo con le zampe due dei soldati e riesce a colpire solo uno di loro leggermente. Colpisce oddio, non mi ricordo quali sono. Colpisce il biondo. I soldati cambiano formazione. Quella con i capelli neri va a guarire il biondo. Il biondo, dopo essere stato guarito, si teletrasporta e pianta la picca sulla testa della creatura. La creatura rimane quindi infilzata da parte a parte. Quello con i capelli rossi crea una specie di per quelli di voi che lo sanno, si vede palesemente che è un'alchimia perché c'ha i simboli alchemici, che deforma la lancia trasformandola, quella già infilzata, in una ancora. Quindi quando cerca di tirarla su rimane attaccata. E infine la bionda punta il dito verso questa cosa e dal cielo compare un fulmine, un Expel Evil particolarmente forte, che prende in pieno questa picca e trasferisce l'elettricità a tutto il corpo della creatura, facendola cadere a terra, priva di vita. La situazione si calma, loro prendono un bel respiro, si danno delle pacche sulle spalle, si controllano, il rosso cerca di far ritornare la lancia al suo stato naturale, e vi chiederei di pensare cosa volete fare voi tre mentre cambio scena e vado a Lieto. Io incomincio con il non droppare overpower per... per sicurezza, just in case. Ok, andiamo a Lieto. Ti stai portando dietro la ragazza Berber. Quando sei arrivata ai cavalli, ti chiedo cosa vuoi fare. E la appoggio, tipo una pietra, un albero. Sì? Seduta, tipo, cioè, non sdraiata per terra. Contro ogni tua aspettativa, perché Lieto è così, la magia di Adone ha avuto effetto e ha rigenerato i suoi tessuti abbastanza da stabilizzarla. Tant'è che quando l'appoggi, lei ti afferra un braccio, non con tanta forza, essendo in bilico tra la vita e la morte, e capisci che è molto giovane, cioè avrà la tua età se non ancora più giovane, e ha un accento di Oclica che tu conosci molto bene, quindi non è berber, cioè sicuramente non parla una lingua berber, e ti dice: ti prego, portami via da questa cosa. L'ho fatto, siamo lontani dalla creatura. No, dico dall'impero. Ah, e come mai? Questi mi faranno morire prima o poi e io sinceramente non voglio. Mi sono unita all'impero, all'esercito, solo perché una come me, e si indica la faccia, non avrebbe avuto vita facile altrimenti. Comprensibile. Nonostante io sia più avvantaggiato dal suo punto di vista. Il 50%. 50%. E... come mai stavate... cioè, vi siete imbattuti nella creatura? La stavate cercando? Siamo tipo l'ultima legione di scorta del Magister Magi. Mentre abbiamo fatto la marcia verso la città, ognuno di noi è stato assegnato a una zona da pattugliare. A noi ci hanno dato il bosco e questo è quello che ci meritiamo. Onesto. Quindi sai dove sono le altre pattuglie? Sì, ai soldati lasciano solo le informazioni che sono utili per loro. Ok, e possiamo portarti in città con noi, I guess. E ci servirebbe una mano nel non imbatterci in troppe pattuglie nel caso. Vedi che si sta slacciando l'armatura d'acciaio. È un'armatura a piastre, quindi deve slacciare ogni blocco. E sotto ha dei vestiti sempre imperiali, sempre oro e nero, però un pochino più leggeri. Cioè, una versione della light. Tonnellata di... Sì, esatto, una versione light dell'armatura imbottita. Esatto. Cioè, un seno nella media. Moda. No, no, è una donna berber, quindi è ben fornita. Ok. Sì, sì, sì. Tutto sistemato, allora non è successo niente di male. Questa cosa. E vabbè, la aiuto, visto che gli manca un tocco di corpo. Sì, sì. Vedi che c'è una parte... E le chiedo anche... C'è una parte lignea che sarà tipo... difficile da levare. Sì. Ma sto mattone, perché? Ultimamente... La nazione non credo di poterlo rivelare. Fatto sta che l'armatura d'acciaio è per le situazioni problematiche. Che genere di situazioni problematiche? Tipo quello. E indica la cosa che sta oscurando il sole. Che forse certo, ti eri dimenticato, questo... però è lì. Sì, sì, certo, questo strato di metallo sicuramente ti salverà dall'isola se muovente. Makes total sense. Ah, è vero, stiamo parlando dell'impero. E poi c'è tipo... La faccia per terra. Credo... Io eseguo solo gli ordini, ma credo che l'idea sia che se c'è quello ci sono creature un pochino più piccole che possono essere pericolose. Giusto, come quella che ti ha staccato un tocco di corpo senza preoccuparsi dell'armatura. Senza armatura d'acciaio. Questa è una grande idea da parte dell'impero. Non sarei più a raccontarlo. Vuoi parlare al genio che ha inventato questa cosa e le tolgo tipo un altro pezzo? Mi sembra proprio un'idea di quelle cose. Guarda, sono la prima a volersene andare. Sono d'accordo, cosa devo dirti? Hai un modo per nascondermi o per fingere la mia morte? Fingere. No. Sì, probabilmente abbiamo almeno un paio di modi per sistemare questo problema, sì. Ce li abbiamo, appare ad dal nulla e poi sparisce. Vedo, lascia intanto... fare. Sì, no, vabbè, c'è Miffer, la può fare addormentare, diciamo che è morta, non si sveglia, cioè, è un cadavere, ci stiamo portando. E possiedo una tunica, mi pare in extra? Sì. Sì. Quindi posso anche farle togliere i vestiti dell'impero e darle la tunica, che già è un aiuto. Sì. E... Poi dai, per completezza, la meridiana di Kronos, che continua a portarmi dietro. Lei ha già una lancia e uno scudo. Sì, ma sono imperiali, quindi quelli li molli lì e ti prendi questi che non c'entrano niente. Sì, no, grazie. È per dire... Cosa ne facciamo? Litogenesi di fondi. Scusami. Che non è una brutta idea, ci stavo pensando proprio. Ma li lasciamo qua. Se proprio vuoi facciamo un buco e li infiliamo dentro. Sì. Cioè no, le lasciamo all'aperto, non c'è problema. Sì. Ok, state confabulando su come gestire la stazione. Cambio scena. Come nasconderla per adesso. Sì. Allora, i quattro soldati si stanno riprendendo. Sono così divisi. Il tizio dai capelli rossi è chinato sulla creatura e la sta vivisezionando, cioè non è morta, quindi non è vivisezione, è dissezionando. Gli altri tre sono vicini a voi tre, se non ve ne siete andati. No, perfetto. E a parlare è la bionda, si vede che è la più grande del gruppo, sia di età che di grado. Si toglie la maschera e fa un leggero inchino e dice: sono Tebias Missum, legato dell'impero. Vi devo ringraziare per averci aiutato. Adone, guarda un attimo di come devo parlare io, poi dice... Dove si avvicina la testa del caprone, afferra l'altro corno e tiene la testa ferma e cerca di spezzare l'altro corno. Quando fa questa cosa, Mif e Adone mi rollano arcano. Tirane un altro, Adone. Mif non nota nulla. 10. Adone viene più 9. 7 più 9. 7 più 9. Quindi hai 16? Ho 16. Posso chiedere a Nibel Alieto di mutarvi un minuto, cioè proprio una roba velocissima, perché non voglio spostarlo. Perfetto. Vedete una cosa che sembra un manapenny nero, tra il nero e il rosso, cadere dal corno e finire nell'erba. Non l'ha notato nessun altro, solo voi due. Bianic, il mio coniglio è ancora evocato. Sì, ok. Voglio che il mio coniglio vada a dire nulla, che deve risultarsi. Cioè, vada a raccogliere i detriti. Vada a coprirlo con il... Sì, sì. con il lo fa in maniera molto naturale, cioè senza dare nell'occhio. Si mette lì. È Benui. Mi fai colto la cosa, ma scegli tu se vuoi dire, fare, baciare qualcosa. Mi volge lo sguardo altrove, perché se fissa sì, sì. La gente può guardarla. Benui. Si gira dall'altra parte. Sì. Comunque Adone appunto ha risposto al tipo dicendo dovere. Insomma, aiutare qualcuno in difficoltà. Posso sapere i vostri nomi? A dire il vero, forse meglio di no. Tanto, se non è un problema, preferirei che andassimo ad aiutare la vostra amica. E poi andremo ognuno per le proprie strade, facendo finta che non sia successo nulla. La donna riprende la maschera, la reindossa e dice... Mi sembra una buona idea. Se venisse fuori che uno dei nostri è stato sconfitto in modo così sciocco, in quanto capo della legione passerei dei problemi. Dunque, dove avete portato Cici? Adone si guarda e effettivamente non sa dove, però dice, beh, immagino da questa parte, va verso i cavalli. Adone avanti. Il tipo dei capelli rossi rimane sulla creatura, mentre gli altri tre vanno verso una cosa, Pjanic. Sì. Aspetta, prima di scrivergli, perché devo capire se mi fai fare sta cosa. Perché Mif si vuole avvicinare al Bnuo, che sicuramente ti scrivo ti segue, quindi... su un gruppo in cui ci siamo tutti e tre per farmi sapere cosa immaginavo per questo i segreti detto. I segreti qua. Ma riesco a staccarlo il corno oppure no? Sì. Ok, puoi segnare di bella... a mani nude spezza il corno e se lo mette nel... Anzi, apro la borsa. Mi accorgo che dentro ci sono il libro e la pergamena che mi ero scordato di far controllare agli altri e me li tengo a mente per okay. Dopo. Com'è la reazione di questi cristi, di un Cristo che arriva lì e spezza a mani nude un corno? Il tipo dei capelli rossi è l'unico che è lì. Gli altri tre stavano parlando con Mif e Adone, quindi non ci fanno caso. Quello dei capelli rossi alza lo sguardo perché è chinato e dice: se queste creature spesso hanno dei materiali interessanti. Buono a sapersi. Mi limiterò a prendere le corna, tutto il resto potete tenerlo voi. Ti guarda, ti nota la tua condizione e dice: non hai l'aspetto di un alchimista. Perché non lo sono. Eppure sei interessato ai materiali. Non si sa mai, si può guadagnare. Giusto. Sei di Apeira? Di origini. Mi chiamo Primo Zimmermum. Zimmerum si alza in piedi e ti stringe la mano notando che sei molto più alto di lui. Stringo la mano e dico: mi chiamo Nibel, mi limiterò a dire questo. È chiaro, siete persone riservate. Ci avete aiutato, quindi non ho motivo di darvi fastidio. E noi non avremo motivo di dire all'impero che uno di voi è caduto in questo scontro. Cici è la più piccola e la più inesperta del gruppo. Dovremmo fare più attenzione a lei. Il modo migliore per fare esperienza, suppongo. Direttamente sul campo. Sì, se non ci rimetti la pelle. E... come mai siete qui fuori? Come? Mif, che se prima era tipo su un... appoggiata ad un albero, no? Non ha fatto un cazzo se non scrivere, praticamente. Chiude il libro e fa... come mai siete qui voi? Lo dici a tutti o a qualcuno in particolare? Sì. Ok, sì, quindi cioè... state prendendo tempo e non state andando a vedere... Esattamente. Ok, perfetto. Ci dica, dottor Lieto. Cioè, vorrei finalizzare come facciamo questa cosa con la tipa. Sì, poi andiamo alla cosa di Mifa, allora. Ok, il piano è questo. Togli tutto, ti metti la tunica, prendi la lancia di merda che ti do io, scavo la tua tomba, e se vengono, ci mettiamo tipo sopra lancia e scudo. Mettici l'armatura e l'armatura dentro. Yes. Riempilo di terra il mio cadavere. Certo. Quindi fate questo setup. Sì. Perfetto. Mi piace. Dall'altro lato, cosa avevi detto, Mif? Ripetimi, per favore. Come mai sono qua? Cioè, il fatto che non sanno un cazzo di Esboson, perché girano nei boschi? Siamo agli ordini del nostro superiore, dice la bionda. Ci è stato incaricato di pattugliare questa zona. Dall'apparizione della creatura in mare... c'è il rischio che ci siano attacchi di altri mostri o altri fenomeni paranormali. È nostro compito difendere la popolazione cittadina. Comprensibile. Deve aver smosso un bel po' di creature quel coso. Già. Le truppe dell'impero sono state inviate in tutti i luoghi dove ci potrebbe essere bisogno. Per fortuna l'impero ha sedi in tutto il mondo, e anche se i nostri numeri sono stati decimati dalla piaga, siamo comunque l'impero più forte del mondo. Sta continuando la piaga? È avanzata? Il biondo vedi che fa questa cosa qua, e però sia lui che la mora non parlano, cioè c'è il loro superiore e stanno al loro posto. Ti guarda, sente l'accento e dice: vieni dall'impero per caso? Sì. Da un po' che però non sono più nell'impero, da un bel po' di tempo. Stando alle ultime notizie pubbliche, la popolazione dello stato di Boses è stata decimata, se non completamente annientata. Ma l'impero sta facendo il suo meglio per prevenire la diffusione del morbo nel resto dell'impero. Le altre zone sono abbastanza sicure. Purtroppo hanno dovuto inserire la legge marziale e giustiziare chiunque cerchi di superare i bordi in maniera illegale. Capisco. A questo punto penso che overpower droppi. Sì. Bene, quindi penso che ognuno possa andare per le proprie strade. Per quelli più empatici di voi, loro non hanno nessuna intenzione negativa, anzi vi... Cioè, vi avete dato una mano, quindi a parte qualche commento strano che avete fatto, siete nel clear. Meglio allontanarci da qua, il corpo della bestia potrebbe attirare altri predatori. Via. A meno che vogliate usarlo come esca. No, direi di no. Il tipo rosso dice: Tebia, ho finito di raccogliere i campioni, tutto quello che ci può essere utile. Intanto Bianic, credo che il mio coniglio mi sia tornato fra le braccia e lo sto tenendo, sto accarezzandolo. La tipa mora è tipo: no, che bello, un coniglietto! un po' di contento, dice... Loria. Sì. Però Adone l'ha colpito sull'unica cosa che gli piace e dice: sì, è il mio famiglio. Datemi solo un secondo. La bionda dice: la nostra esperta di magia naturale è la ragazza che avete messo in salvo. Non è su quel versante, però. Non sull'evocazione. Capisco. Forse sembrava messa bene. Sì. Purtroppo la creatura l'ha accolta di sorpresa e in un istante le ha strappato l'armatura e qualche organo interno. Beh, penso che avrà bisogno di una signora rianimazione, secondo me. A giudicare da quanto sangue perdeva. Il tipo biondo sussurra, ma lo sentite perché non lo fa in modo sneaky. Cici era già morta ieri. Non è passato troppo poco tempo per taci. Sì, sicuramente riusciremo a guarirla prima che sia troppo tardi. Ve lo auguro, è un peccato perdere una vita così giovane. Avevate un altro membro del vostro gruppo, se non erro. Immagino sì. Che andiamo insieme. È andato a soccorrere. Sì, in quella direzione abbiamo i cavalli e probabilmente la porta da lì. I quattro procedono al diamante marciando e vorrei sapere voi come cosa fate. Anch'io incomincio a dirigermi verso la direzione dei cavalli, dove sta Lieto. Non ho bisogno di prendere altro dalla bestia. Però prima di andare via, comunque metto la mano sulla guancia della bestia, un po' in maniera di riverenza. E poi mi alzo e vado verso gli altri. Miff invece aspetta che passi a Don e fa: quel sigillo è interessante. Cosa ti ha detto? Quel sigillo è interessante. Quello che ti è apparso sulla testa. Parliamone dopo, magari? Sì. E infatti non ti aspetta e continua ad andare avanti. Madonna, prendo un albero e te lo tiro addosso. Il cuore di Dio. Sì, come ha fatto. Te le mollo tutte. No. Con quali malapenni? Lei non sa, non glielo dire. Sì, Adone sospira, comunque se non c'è nessuno faccio mettere il mio bnuo nella borsa e faccio in modo che molli lì la roba. La roba. Lo fa. Cacca addosso. Lieto, percepisci che stanno arrivando? Non perché li senti o li vedi, ma perché c'è un vibe strano. Ti prego, rolla un D10 in arcano. Cazzo, lui 10 necca. Quanto ha fatto? Poco. Sì, cioè 8. Sì, 12. Ah, ok, dai. Poco, ma non pochissimo. Vibe check. Uno di voi, io direi Adone perché l'ha raccolta lui, mi tira un D20. Perfetto. Scusate la mia telecamera stasera, perché non ce la fa. Tranquillo. Stasera. Allora, quello che senti è un'aura di indifferenza. Non hai la certezza matematica che cosa voglia dire questa cosa. È un vibe che hai sentito. Ok. Miff ha la stessa percezione. Il vibe si sta avvicinando. Sì. E capisco da chi viene o è solo il vibe che arriva? È il vibe. Poi dopo 2 secondi che c'è sto vibe, emergono dalle fronde 8 persone, tipo. Sì. Vorrei sapere come vi siete messi d'accordo. Cioè, se lei ora si nasconde tra i cespugli, oppure se avendo la tunica tiene sulla tunica e fa finta di non conoscerli. No. Lei si leva dal cazzo. Okay. Cioè, il più lontano possibile. Appena si è cambiata, l'ho fatta andare proprio. Perfetto. Ci siamo detti tipo, ok, ci vediamo 300 sì. metri più in là, mettiti dentro un cespuglio, un albero, il cazzo che ti pare. Perfetto. Ok, quindi i 4 soldati dell'impero arrivano fuori dalle fronde. Voi siete insieme ai soldati e vedete Lieto, seduto, sdraiato, in piedi? Sì, è tipo seduto accanto alla tomba e sta tipo fumando. Cioè, ok. What the thing you doing? Con becchini vinaiche. Madonna. La bionda ha la maschera, ma a parte quello riesce a percepire che ha sgranato gli occhi. Sì, anche Adone quando vede rimane un po' così. Che cos'è successo? Gli ha toglie la sigaretta, non sigaretta, che non fumano tabacco, vero? Oppio. Oppio. Un oppio light. Oppio light. Miff che viene a prendertela. Light. No, no, no, è la mia, è l'ultima, non ti permette. Cos'è successo? Cioè, Adone interrompe i due bambini. A quanto pare non siamo arrivati in tempo. Non è sopravvissuta. Mi è sembrato consono. Seppellirla, visto quello che era già successo, e guarda Adone a una persona a noi cara. La Mora scoppia a piangere. Il biondo è in ginocchio per terra con la bocca coperta. Quello con i capelli rossi sta scuotendo la testa. E la bionda è stoica. Dopo aver detto dannazione. C'è un silenzio, cioè loro sono tutti mourning. I guess è la vita del soldato. Beh, mi dispiace, cioè Adone si gira verso comunque la... Com'è che si chiama la tizia bionda del capo? La tizia si chiama Tebia. Ok. Mi dispiace, Tebia, che non siamo riusciti ad arrivare in tempo. L'impero non tollera debolezza. Ma è morto uno dei nostri commilitoni. Primo, realizza una tomba consona. Agli ordini. Il tizio dei capelli rossi si avvicina e usa l'alchimia per deformare la spada e lo scudo che ha lasciato lì per formare un simbolo con nome e cognome della tipa, che scopre in questo momento essere Cici Freeman. C'è l'anno di nascita, 1601, anno di morte, 1622. Grande Cici, ti seguo da quando facevi film western. Proprio così. Cosa che ha fatto Morgan Freeman? Ha fatto un po' di tutto. Perfetto. Poi Freeman è il classico nome da schiavo liberato. Uomo libero, esatto. I quattro si mettono di fianco alla tomba, poggiano tutte le armi a terra in maniera molto solenne e la bionda recita proprio una preghiera, una cosa che ha un vibe antico, cioè un tono antiquato, una cosa che si faceva in altri tempi. Che non suona così aliena a nessuno di voi, cioè sapete tutti che esistevano i riti funebri, quindi non vi colpisce. Sì. Quando hanno finito questa cosa qua, un ode a Oerioth o Doughty in base ai loro antenati, tutti riprendono le armi, e vi stringono le mani a quelli di voi che vogliono farlo, che sono disposti a fare questa cosa, vi ringraziano comunque per aver tentato di aiutarli, e procedono nella loro direzione a pattugliare, cioè verso la centrale dal vostro punto di vista. E magari prima di salutare Tebby, appunto, l'ultima cosa che le dico è: noi non ci siamo mai incontrati. Comprendo. Molte persone hanno qualcosa da nascondere da queste parti. È un motivo ricorrente. Anche voi oggi. Come? Anche voi oggi? Sì. Anche se ormai la situazione è più grave di quello che può essere nascosto, sembrerebbe. Già. Diremo la verità ai nostri superiori. Cici ha perso la vita coraggiosamente per difendere il suo esercito. Esattamente così. Buona fortuna. Che Alciel vi tipo... arrida. Che? Alciel? Sì. Chi è Alciel? È la divina della fortuna. Alciel, ah, forse. Okay. Alciel. Si scrive Alciel. Arceus. E se ne vanno. Loro sono a piedi, non hanno i cavalli, quindi camminano marciando. Quando sono andati abbastanza in là, io mi avvicino a Lieto e dico: Lieto, che cazzo hai fatto? Fatti i cazzi tuoi per almeno altri 5 minuti. È abbastanza lontani che non li vediamo. Sono dietro si gira. Dai, vai, finisci pure. E dietro tipo si sporge, guarda dove sono. Ok, sì, non è morta. Ci sta aspettando 300 metri dietro un cespuglio in quella direzione. Indica la direzione, se no. A quanto pare voleva lasciare l'impero come disertore a questo punto. Ottimo, perché... abbiamo anche un disertore adesso. Due ricercati, un disertore. Dopo quello che hai fatto. Fuori dalla nazione dell'impero. Si gira. Adore non agisce così, ma scusami. Non è che l'omicidio va bene fuori dall'impero. Adone alza lo sguardo e dice: non sapevo che qua l'omicidio non fosse un crimine. Meglio così. Non sapevo che qua ad Esbosan il tentato omicidio non fosse un crimine. Meglio così. Intendevi quello? Pensavo ad addormentare un magister ad Apeira. No, basta dirlo! Basta parlare, che qua se ci sentono siamo fritti. Comunque, no, parlavo di quello che hai fatto per prima. Ma sì, dai, quello non lo saprà nessuno, cosa vuoi che sia. Ammiro la tua confidence, Biff. Serve tanto di quella nel mio lavoro. Andiamo avanti. Come aveva previsto correttamente Lieto, dietro un cespuglio nascosta in modo che, se non l'aveste cercato, non l'avreste vista, c'è una giovanissima donna, una ventenne, dai capelli raccolti in dread, la pelle scura, che indossa una tunica. Che cazzo di tunica gli hai dato? Quella del culto? Era letteralmente la tunica che avevo comprato per Kronos. Una tunica tipica di Apeira ad Esbosan, certo. Sì. Non è così strano. Tuniche. Avevamo le tuniche della chiesa, sì. L'abbiamo fatto per scappare da Maria. Sì, esatto. Però è andata un'altra. Sì, volendoci anche quella. Potete fare il giochino degli outfit su Cici. Vabbè, infine. Il dress up game. Esatto. Vedendovi arrivare, Cici dice: se ne sono andati? Sì, se ne sono andati e l'hanno bevuta. Erano molto tristi della tua morte. È una bella tomba adesso, però. Una bella tomba. Non pensiate che l'abbia fatto con leggerezza. È la seconda volta che muoio in due giorni. Sì, l'avevo sentito. Questo lavoro non fa decisamente per me. So che mi sono giocata la carriera e la vita nell'impero, ma meglio che morire. Non è stato capito di fare un nuovo nome? Scusa. Cici è il nome che mi ha dato la mia famiglia, non penso che lo cambierò. Sul cognome, sì, penso che prenderò un cognome diverso. O nessun cognome, da noi non usano il cognome. Beh, Cici, tante belle cose. Vi guardo gli altri come per dire cosa volete fare. E vabbè, ci può accompagnare fino ad Esbosan, I guess. Non vorrete mica lasciarmi da sola nell'isola dei mostri? Accompagneremo fino alla città. Sì, e parte del nostro Dial era che ci avrebbe aiutato a evadere le successive pattuglie dell'impero, che sono qua vicino. Aspettate un secondo. Ci sono degli uccellini qua in zona. Volevo provare a fare una cosa. Gli uccellini sì, rosso. Sì. Quando è morta la creatura, il suono di uccellini che sentivate più in là si risente. Allora provo a fare a fischiare per chiamarne uno, per farlo venire sul dito. Cute. I'll allow that. Non so che uccellini ci sono. Principessa Disney. Qualche uccello marittimo. tutti in due metri piano. Mi aspetto un gabbiano di quelli spezzini che si appoggia sul tetto di Nibel. Che più o meno ci sta, cioè. Meglio ancora, meglio ancora. Hai visto i soldati che sono passati prima? Cos'è un soldato? I uomini che sono passati prima. Ah, sì, sì, sì. Hai tanti amici qui in zona? Ho dei rivali. Puoi fare casino nei boschi? Sì. Scuotere le fronde? Sì. Tienili sulle spine. Mi dai da mangiare? Avete qualcosa da mangiare per... La carne putrefatta, questi stronzi mangiano qualsiasi cosa. No, no, avevamo preso il cibo per il nostro viaggio. Cosa mangi? Cosa ti piace? Semi. E pane. How about un pezzo di pecorino? Ho anche una pita. Non avevamo il pesce... Ho una pita. No. Ho tre pite. La pita per loro è come il McDonald's. Perfetto. Dai, gli do una pita. Basta, gli dai un pezzetto, non è veramente un gabbiano. Esatto, sì, un pezzetto. E dopo di pita, tipo... Mi raccomando, il bosco in quella direzione, fate più casino possibile. Teneteli sulle spine, ok? Grazie, uomo delle focacce. L'uomo focaccina! Vai, poi lo lancio. E senti che man mano che si allontana il suono inizia a farsi un pochino più ritmico. Sì, voglio che praticamente, tipo, non lo so, lo stormo smuova il bosco, sì, in modo che mentre camminino sembra che abbiano casino da tutti i lati e scacchino addosso. Funzionerà, che a differenza dei centri grandi in Albania. Satira. Wow! Hai visto? A gratis. Damn boy. Okay. Non avete un cavallo per Cici? Il Cici io con lei? Potete, sì. Il mio è molto più grosso, dice che regge anche una non esagererei. Infatti forse è meglio che viene o con me o con Mif. Però ti provo a tirare su Mif, provo a tirare su Adone, chi di due pesa di meno? Mif. Sì, Mif, perché comunque okay, è più bassa. Mif, vieni nel cavallo con me. Comunque, ok, sapete, mi prende le sue cose. Il mio nome, io non so i vostri. Lieto Esper. Nibel, piacere. Mif. Adone. Mif. Mif ti guarda e poi guarda Lieto. No. Ah, ok. Wow, seconda persona! Non siamo parenti. No, non siamo... Esatto, no. Ok. Per fortuna. Non era quella la domanda. Siete per metà berber. Sì. Sì. Come la vivete questa cosa? Mio padre era delle tue zone. Ah. I miei sono no. Tante zone là sotto, dietro. Tipo, ti guarda come per dire... Dietro non lo sa dove veniva Zanzan, non ha fatto il tempo a conoscerlo, quindi... Esatto. Ragazzi, scusate, devo andare a fare una cosa, torno subito. Facciamo pausa? Sì, facciamo pausa, che mi faccio una roba da bere. Perfetto. Mi è piaciuto il combat light? Sì. Se tappare il mostro, le cose, mi sembrava veramente macchinoso per niente. Ma sì, poi avrebbe occupato un sacco di tempo perché c'erano altre quattro persone, un macello. Esatto. No, mi va molto... Cioè, è come tipo Sirio che ieri si lamentava del fatto che era un fight due persone che avrebbero buttato giù dal ponte e comunque tutti hanno rollato iniziativa, tutti hanno fatto i turni, quelle cose lì le puoi lasciare andare. Sono d'accordo. Cioè, non vedo il senso di fare delle robe quando le puoi velocizzare. Esatto, sì, no, è verissimo. Poi è stato carino comunque, cioè, non è che ha perso. Nibel ha tirato i pugni, Ons si è divertito. Ho messo due exp a senza armi, giusto per ricordartelo, e un exp a magia naturale. Ok. E mi sono messo un fatica, visto che ho usato overpower. Sì. Perfetto. XP arma no, XP maggior teologia no, perché non l'ho usato e basta. Il PG prende pochissima XP per le cose. Però ancora 9 cazzotti e salgo di arma con senza armi. Nice. 9 turni almeno di cazzotti. Non credo sia per chi fa stolone, perché penso che l'ho già usato oggi. Sì. Infatti non si applica. Voglio il KPC, dice. Sesto. Quando venite lo prendiamo. Cosa? Quando venite prendiamo il KPC. Sì! Oh, non vedo l'ora. Tanto fate poco, 3 giorni, no? 3-4 sì, giorni. Perché arriviamo... Altro, Sara, domanda. Il 5, non serve che partiamo alle 5 della mattina? Possiamo partire più tardi? Era perché ti eviti il traffico. Anche perché infrasettimana hai... È una bugia inventata dalle grandi corporazioni. Ti eviti i camion solo per quello, non per altro. Non... E gli stupidi nell'accisa. Sì, ma non importa. Andiamo, partiamo un po' più tardi, così io dormo. Alle 8? Sì, sì, mi sveglio, mi sveglio normale. Facciamo colazione, cioè io faccio colazione e partiamo. Esatto. Così e abbiamo... allora, sì, io vengo sulla sera. Sì, domanda, vieni prima di cena, immagino. Penso proprio di sì. Ok, abbiamo una scelta, Manny. Okay. Usciamo fuori a cena e saltiamo la cena con i miei, ceni con i miei genitori, perché purtroppo io prometto di stare in silenzio. No, quella sera lì purtroppo l'appartamento di là è occupato da un amico di mio padre. Esatto. Ovviamente non ti faccio dormire di là con l'amico di mio padre. No, dormi qui con me. Certo. Solo che appunto siamo kinda costretti a stare a cena con i miei ora. Fra, non è un problema. Cioè, se lo è per te, usciamo fuori. Mi trovi un posto dove fa del riso. Perché il giorno dopo partiamo. Non devo stare male. Cioè, proprio. Allora, sì, sai che sto pensando? A prescindere, credo sia meglio se andiamo effettivamente fuori a cenare. Perché metti che ceniamo in casa. Cosa mangi? Riso e tonno. E questo è cioè, lo sto, devo vedere con i miei, facciamo così, vedo un attimo. Sì, tua madre ammazzala, perché se mi aggiunge un'altra volta i peperoni in qualcosa che le hai detto e ripetuto che non posso, ok? Se mi vuole ammazzare un'altra volta, lì non sto in silenzio, sai? È per quello, perché poi a me dice... Me lo preparo io il riso, me lo preparo io, non è un problema, ok? Cioè. Guarda, usciamo fuori, perché a me dispiace per te che giustamente muori, a me dispiace per mia mamma che poverina voleva... ha cucinato, ha fatto pure... No, infatti, super apprezzato. Sono stata malissimo e quindi facciamo che usciamo fuori e basta. E mi devi trovare un posto che faccia l'equivalente di un riso. Cioè, è questo il problema. Perché io non mangio altro, se no un pezzo di carne. Sushi? A cena? Te lo offro io. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Sì. Tanto sì, è ricco, che cazzo vuoi? Mi va bene, mio padre è ricco. È una solita cosa. Andiamo a cena con tuo padre, io e Ica. Esatto. Tu e Sara da un lato. Scopriamo che abbiamo un sacco di cose in comune. Vabbè, se facciamo delle battute omofobe, probabilmente. Cioè. Va bene, quello a San Martino, giusto? Sì. Top. Ti aiuto con le spese, non è un problema. Allora. Sì, perché sì, è un casino. Chiederei... E va bene come alternativa, in realtà. Ricominciamo. Ciao. Tanto sì, avete tanti giorni per decidere ancora. Sì, hai ragione, scusa, ho deciso sì, oggi. Esatto. Esattamente una settimana. Sì, siete a cavallo, perché siete effettivamente a cavallo, e state andando un pochino più spediti di prima, i cavalli sono meno spaventati e ora sono al punto in cui considerano come una buffa formazione rocciosa il pesce gigante con un rosario fra le mani che è a sud. E niente, se volete conversare con Cici lo potete fare, altrimenti vi faccio arrivare in città. Io una cosa, io sto indietro, metto la mano alla cosa che mi ha mollato il coniglio, che il coniglio credo sia ancora lì con me, tra l'altro. Sì, sì, sì, non l'hai ancora despawnato. E la tocco. Prima la guardi, qualcosa, immagino. La guardo, sì. Bene. Hai un momento Avatar The Last Airbender in cui vedi tutte le tue vite precedenti. Tu, non Adone, non ho mai parlato di Adone io. E come ti dicevo, tu non sei un esperto di stregoneria. Però io o Adone? Adone, Adone. No, no, è finita la cagata con te, è durata un secondo, okay, faceva ridere, basta. Tu non sei un esperto di stregoneria, ma quando una cosa è così palese, te ne accorgi anche tu. La cosa che è caduta ha sì una patina nera, probabilmente il sangue era preso della capra che avete ucciso, e se lo togli, vedi che sotto è un disco pressoché identico a un manapenny, cioè veramente molto simile a un manapenny. Non riesci nemmeno a capire di che materiale sia, perché non è freddo come il metallo, quindi agli occhi di una persona che non conosce la plastica, la cosa che ci va più vicino è il materiale di manapenny. È, come dicevo, bianco e il bordo è tipo le monete da un euro, col bordo d'oro. Ok? Okay. Un pochino più fino del bordo degli euro. E non ha nessuna incisione, non ha niente. È veramente clean. Anche come dimensioni siamo molto vicini ai manapenny, siamo sui 3 centimetri. E emana una forma di energia, di stregoneria dell'indifferenza, quindi lo stesso feeling di Counterspell, lo stesso feeling di... vediamo se c'è una spell... di quando usi, quando usavi stregoneria per fare danni sacri, per esempio. Ok. Quando usavi, come cazzo si chiamava? Passione tormentata per infliggere danni sacri. A quel vibe lì. Ok. Provo a toccarlo. No. Non succede nulla. No. Ok. Provo ad... posso fare un'analisi più approfondita magica o questo era... Puoi... ti ho detto tutto quello che c'era da scoprire, quindi se vuoi rollare puoi farlo per bellezza, ma questo è quanto. Ok. Interessante. Ma l'aria di maligno veniva, non maligno, di indifferenza che avevo sentito prima è ancora con me? Sì, sì, sì, è verso Adone. Mi giro verso Adone e lo guardo. Ha una moneta in mano. Ha una moneta in mano. Moneta. Mi avvicino. Che cazzo avete trovato? Ah, non... tu sai se i diavoli possono creare manapenny? E te lo mostro. Da quello che so, no. Ma quella cosa non ha un'aura estremamente piacevole. No. Però... l'ha mollata giù la capra infernale, quindi... assomiglia un pochino... cioè, le palle che produce Irumaru. Sono... no, non sono... no... Adone dice sì, ho capito cosa intendi. No, credo sia un pochino diverso. È diverso, Bianic? Sì, sì. Diverso, sì, è diverso. Okay. La cosa che fa Irumaru... E che Irumaru sintetizza, sostanzialmente. Questo sembra che se lo sia mangiato. E poi sia caduto. Gli altri lo hanno già visto. Solo Mif. Ok. Magari dopo le faccio e anche chi non c'è bisogno, allora l'abbiamo visto tutti, non ti preoccupare. Sono Ivel. Povero di Isabella! Perché? Gli Ainslai. Ah, il nostro bear preferito. Nibel è un barbaro, cioè, letteralmente. Ma sei tu nero, non lui. Wow. No, no. Wow. No, non è il concetto di Berber. Vabbè. Dopo la faccio vedere. Laura che non è positiva, però non mi sembra neanche. Ma Adone dice: non è che ormai sei coloso? Tante cose positive. No, nel senso, ormai le sto cazzato, non sei morto, quindi puoi anche portartelo dietro per altri 10 minuti, I guess. Cioè, non è come. Come l'arancia. No, che arancia, io pensavo a. Il cuore originale che è fatto che ti succhia il cazzo e poi ti uccide. Penso avere le convulsioni. Sono sicuro che non mi succherà il cazzo e poi mi ucciderà. Wow. Scusate, ma c'ho Wally sotto la scrivania che sta pulendo, quindi okay. Devo dargli okay. Un altro. È per quello che mi allontano. In borsa dice quando siamo da soli. La faccio vedere a Mif. La facciamo tutti vedere a Mif quando siamo da soli. Dai, puoi tornare dove eri prima. Saluti. Non ha mai detto di no. Voce fuori campo. In allora ha usato Silas in un angolo. Mi aspetti un Mau che esce tipo dalla sua boccia e c'è tipo Ni e Nens. Gli avete dato da mangiare a Irumaru? A proposito, Biff voleva proprio fare quello. Esatto. Ok, sì, la sera scorsa gliel'ho dato. Emerge dalla giara facendo knock knock sulla sul coperchio. Biff, togli il coperchio. Sì. Guarda così. Metto un po' di carne umana dentro, macerata. Come sta? Cioè, si rivolge a Nibel, non fa. È felice? Sono due palline che fluttuano nella sua cosa. No, prende le palline. E le segno. Sì. Come hai, l'acqua. Non hai più spazio in inventario. Che senso, non ho più spazio. Penso che ci sono slot da 10. Se è l'11ª la devi mettere o in un altro slot o darla a qualcun altro. Si gira Vada. Verso dietro e fa. Dietro fa. Ah. Minaccia la pallina, cerca di centrargli la bocca. Rolla per tecnica. Io no, Mif, che se gli tra i bocchi è un casino. No. Okay. Tecnica vabbè, hai? Più 6. 9? 9. Lieto, ti si ferma sul labbro, così, in bilico, e puoi scegliere se mangiarla o no. Dietro è curioso, sono grandi queste perle. Sono, hai presente? Delle biglie proprio. Sono più piccole degli Lindor. Minchia, c'è quel cazzo stringo io non del genere. No, più beh, non è così grande. Piccole. Come cazzo si chiamano? Quei cioccolatini piccini tondi esistono. Non mi... Os che tipo... Io capisco, vabbè, cioè, che, nel senso, un pisello no, arriva fino a un certo punto, la mia deve scendere giù dappertutto, quindi... Fidati che ce la fa, io ti faccio vedere la prossima volta che ci vediamo. Va bene, va bene. Anaconda. La bimba. Queste. No, Lieto lo mangia. Lieto lo mangia? Amba, allora, tanto per cominciare, Lieto non muore istantaneamente, che è un traguardo. Cioè, per come sta andando la campagna, io prenderei e porterei a casa. È una palla di Mozart. Bella. Sì, ha un sapore di cioccolato al pesce, quindi non è buona. Cioè, possiamo discutere di questa cosa qua, però non è un buon sapore. Non è buona. Quello non è che buona. Mi disturba, non il pesce, ma il cioccolato. Sì, sì, sa, il cioccolato al pesce. Ho bisogno di un secondo perché devo trovare la descrizione esatta di questa cosa. Lieto, ho due agenti del caos. Ne ho una di troppo. Sì. Vorrei. No, anzi, non ve lo chiedo. Mi dovete dare un minuto che controllo tutte le schede di tutti i personaggi. Ci vorrà un attimo. Vai, tanto non siamo così tanti. No. Forza. Ne abbiamo uno su Adore. Vi guarda come il lo sticker di Goku, siamo quattro scimmie, questo qua, aspetta. Dov'è? Fated. Cosa stiamo guardando? Sto facendo io, non ti no, tu non ti preoccupare, Kitten. No. Ok, ho un'idea abbastanza precisa di quello che sta succedendo. E Lieto sente un rumore provenire dal suo zaino. Un bzz. Dura un secondo, cioè fa proprio bzz, e basta. Adone, nel tuo zaino senti qualcosa che si muove. Io nel panico apro la borsa. Ricordi, Adone, che tu 45 anni fa avevi raccolto dei frammenti di automa? Certo! Si stanno muovendo. Porco Dio! Frammenti di automa, per quelli di voi che vorrebbero sapere di cosa sto parlando, non sappiamo cosa siano. Sono degli ingranaggi con degli assi e le robe, tipo un pezzo di un braccio, e stanno facendo questa cosa qua. Adone bestemmia in tedesco, che... Scheisse, urla oggettivamente, e ferma il cavallo e butta la borsa. Io ho una domanda a Bianic. Ho motivo di pensare che quella roba sia ancora infetta? No, perché tanto... Sì, la era... Beh, eri già morto da un po'. Però... Sì, quindi... Allora mi fermo e dico, Lieto, che cazzo hai fatto? Non era troppo buona. Un consiglio di non mangiarla come cibo. Bene, sei sopravvissuto però. Cavallo... Sì, ma abbiamo un problema. Va, esca dello zaino e tira fuori il braccio che si sta muovendo. Okay. Che cazzo è quello? È bizzarro, ma potrebbe quello? Essere una casualità. Bizzarro? Avventura bizzarro. Scusate. Quello è un pezzo di automa che avevo ancora in borsa, effettivamente. Ma che cazzo ti stai portando dietro un tocco di automa? Stanno far... via? Ma adesso che si muove, no! Inceneriscilo e buttalo via! Non posso incenerirlo! E... Anche i metalli fondono. Esatto, lo metto a terra e guardo e dico... Bianca, adesso Adone ha un piccolo reminder. Gli automi non si possono bruciare, sono tipo indistruttibili. E appunto, non posso fonderlo. Usa lietogenesi. Lietogenesi. Hold on. Crea lava, oggettivamente. Sì, crea lava. Do you want a bucket of lava? La lava tipo brucia 3000 gradi, mi pare. Sì, ma... Adore sospira e dice, Lieto, prova a creare della lava, ma ho dei seri dubbi sulla sua... Anzi, no. La reazione di Cici, intanto? 1200, massimo. Sì, 1200, sto vedendo. Porco di vero che c'avevo ancora Cici! Madonna beata! Lei è seduta dietro, cioè da sola. Non ha la testa della cosa, tipo a fianco a Nibel. E a Nibel sta dicendo, ma è sempre così con voi o...? Sì. Ok, sempre. Quindi vi devo lasciare il più in fretta possibile. Ma tra l'altro tecnicamente Miff è sul cavallo dietro con me, quindi mi sente per forza di cosa. Esatto. Perché il cavallo io l'ho lasciato... Per forza. Sì, sì. No, lui porta sfiga e indica Adone. Invece sei un idiota e indico te, Miff. Io mi ho salvato il culo più di qualche volta. E continui a metterci nei casini. Perché hai dato da mangiare una perla a Lieto? Non avevo spazio. Bambini, fate i bravi. Lieto, comunque, visto il braccio collega, il rumore che ha sentito poco fa, e anche lui... apre lo zaino, cioè... Nello zaino hai una serie di oggetti e non credo ti sia palesemente chiaro cos'è che ha fatto... Ok, e tipo li prendo uno a uno e ci guardo tipo da vicino. Allora... Una forma di pecorino. Allora, la meridiana non ce l'hai più tu, ce l'ha... Meridiana e tonaca sono andate, sono da Cici. Te le tolgo. semmai poi le riprenderai quando sarà al parco. Sì. Allora, anche l'effigie non ce l'ho più. Anche la tua lama istantanea è scomparsa 13 giorni fa perché non era eterna. Sì. E l'effigie è rimasta sulla giusto. Tomba. Esatto. Quindi, un giornale della roba. È improbabile che abbia fatto bzz. Il carcube è roba da mangiare, è improbabile che abbia fatto bzz. La staff sono oggetti di valore, è improbabile che abbiano fatto bzz. I manapenni non hanno fatto, il pecorino non ha fatto bzz, quindi rimangono. Indovina, la conchiglia. Potrebbe essere la conchiglia oppure la pistola. Effettivamente o il rosario abissale che hai equipaggiato, quindi non va bene. Cioè, o la conchiglia o la pistola sono i due papabili. Però il rosario no, perché te l'avevi ricordato come ultima cosa, quindi non può essere quello. No, poi avevi detto che veniva dallo zaino. No, rosario ce l'hai equipaggiato, quindi non esatto. Sì, più quello il problema. Cioè, tipo su, tipo la pistola. La scuoto, non fa niente. Non ti sembra abbia nessun effetto particolare? Beh, è una sola cosa si può fare per questo. E chiedo a Mif un'altra sfera di Umaru. Mif te la porge. Cioè te la lancia, oggettivamente, se sei distante. Hai l'impressione... Ok. Che qualunque cosa sia successa, poiché si sta ancora muovendo il braccio, non sia ancora terminata. Ok, quindi dovrebbe fare bzzz. Di nuovo? Se la vuoi mangiare, puoi mangiarlo, ovviamente non sarò io a impedirtelo. Onesto. E vabbè, me la filo in tasca. La tengo okay. Per dopo. Segnatela perché io me la sono tolta. Sì. Miff si gira verso Tune e fa: perché hai dei pezzi di roba contaminata? Da dove vieni? A parte credo che ti sono venute le ossa di metallo. No, quello era per un altro motivo. Sicuro di volerne parlare a voce alta qui? No. Col traditore, cosa fa? Dall'impero di... Col traditore dell'impero, esatto, che esatto. Lo eseguiranno come tutti gli altri che hanno già fatto. Io apposta. Non sono il tipo da snicciare. Ah, sì, devi sapere che il nostro amico Zitto? Ha subito la piaga bronze almeno una volta nella vita. Non è morto. È la prima persona che sento che si salvi. Lo sappiamo. Non è la prima. La seconda. Che sento. Esatto. Sappiamo. Lieto. Puoi, per favore, aiutarmi a disfarmi di questa cosa? Va bene. E genera il suo calderone di lava. Prego. Ah, vediamo. Ma perché la mia telecamera deve essere... Vabbè, e Adone si avvicina e mette... E tiene per mano la mano e l'altro pezzo lo prova a infilare nella... Non succede nulla, vero? Non solo non succede nulla. Hai presente che il metallo quando si scalda cambia colore, comunque c'ha degli effetti? Non succede nulla di tutto questo. La temperatura della lava che ha creato Lieto non è abbastanza per farle cambiare niente. Non è... Vedi cosa intendevo, Mif? È tiepida ora che la stai toccando dopo averla messa nella lava. Danna da mangiare al mostro. Danna... al coso, ma me perché la tua trottoletta l'hai dato a mangiare l'altra cosa? Perché dai da mangiare cose pericolose a creature o persone? Qual è il tuo ragionamento? Effettivamente hai ragione, il Rubaru magari se la può mangiare. Il Rubaru? Io volevo dire quello, e se ne desse un pezzetto di Rubaru. Tiriamo conto che per ora l'ha maneggiato soltanto Adone, ed essendo l'unico che è guarito dalla piaga, può darsi che sia l'unico qui che è immune, quindi eviterei di farla toccare ad altri. E Antonio riesce a staccarne un pezzetto? In qualche non maniera, vedo. Una scheggia, un qualcosa? Provo assassate, martellate. Avevate già provato a romperlo e non ci si riesce. Quello che riesce a fare è smontarlo con moltissima pazienza, perché i pezzi sono, come dire, collegati. Beh, se lo smonto dovrebbe smettere di muoversi, I guess. Mi sembra un'ottima assunzione che vogliamo testare a questo punto. Vabbè, Adone si siede per terra a sto punto e come bravi bimbi si mette a smontarlo. Ci metterai 20 minuti. Porco Dio. Intanto possiamo andare. Può farlo insieme a cavallo. Per me. Camminano i cavalli. Sì. Sì. Lo fai a cavallo. Lo facciamo in sella. Quanto è difficile questa cosa? Tantissimo. A cavallo? È come se un uomo delle caverne stesse cercando di smontare una PlayStation. È quel livello di difficoltà. Con la differenza che non hai la forza fisica per spaccarla e risolvere il problema. Mentre c'è uno stronzo dietro che ti scuote le spalle. Esatto. Sì. In tutto questo, che diciamo, ma che figo. C'è il lieto che ti sta giudicando. Ma io il lieto lo ammazzo. Guardate che bravo, sono ventriloquo. No, lieto non ha un cacciavite da dare, mi dispiace. Ti dico io cosa ti do. No, vabbè, Adone credo che a sto punto non... cioè, getta un po' la spugna, se lo tiene in mano e aspetta che smetta di muoversi. Sì, oltretutto è vero, lo stai facendo mentre si muove. Non lo faccio. Bellissimo. Vabbè, io basta, mi sono rotto il cazzo la telecamera. Direi che non ci provo nemmeno a smontarlo, lo tengo così in mano, perché se me lo tengo in borsa mi sfracella tutto. Mi mette tutto in disordine. Sì. Che ridere. Quindi non abbiamo un ingranaggio da dare a Yomaru. Non avete un ingranaggio da dare a Yomaru per il momento. Dietro. Tristezza proprio. Lo mettiamo dentro intero con il Yomaru fa frullato. Effettivamente possiamo anziché dare quello di Yomaru, possiamo dare Yomaru a quello. Cioè... possiamo lasciare stare il Yomaru, per favore? Per un minuto? Facciamo così, vediamo se si scarica questa cosa, ok? Va bene, io direi di metterla di nuovo nello zaino, comunque. Esatto, visto che non vorrei girare comunque. Esatto, qualcosa di riconoscibile. Dov'è tua madre quando ci serve? E si gira verso dietro, tipo, dov'è tuo padre quando ci serve? Sicuramente lei sa come fare queste cose. È ancora sciocco, cioè... Adone ha voglia di piangere in quel momento dello sfinimento, però non lo fa. Mette semplicemente il braccio in borsa e si tiene il suo famiglio, intanto accarezza il famiglio. Ho io 5 manomettere, posso provare, però non voglio beccarmi la piaga bronza. Ci sta. No. Dopo un'altra mezz'ora, la mano finalmente si arresta e lieto sente un nuovo bzzz dalla sua borsa. Ma non potete tenere la pistola in mano, Cristo? No, infatti non te l'ho detto, ma volevo farlo. Cioè? Volevo tenere in mano uno dei due oggetti che avevo in dubbio. Ah, quale? E la pistola, che è la più facile, direi. È la pistola che fa... Ragazzi, è la pistola! E svinto, bravo. Tipo, la pistola carica agli altri. Magari mettila via. Fa pochi danni, siamo sopravvissuti a peggio, e la rinfila tipo nella fondina. E a quanto pare era la pistola che stava vibrando, quindi ci deve essere un collegamento, la pistola è tecnomagica. E... Figata. Però non forte quanto l'ingranaggio di Adone, comunque. Era successo quando? Quando hai mangiato la perla? Si sono attivati quando ho mangiato la perla e la pistola ha vibrato quando è finito l'effetto anche sul braccio che possedeva. Pjanic, ho una domanda. Per quale arcano divino motivo dovrebbe essere accaduto tutto ciò? Ho modo di fare una teoria con un tiro? Mi piace, vai. Però aspetta, vogliamo fare una cosa divertente? Oddio. Tiro il dado e non ti dico il risultato. Va bene. Ti piace come giochetto? Vado a prendere un D10. Allora, no, io... Gambling addiction. Ed è successo perché l'hai fatto tu? O perché l'ha fatto qualcuno? Questo non lo sappiamo. Miff potrebbe provare a mangiarne un'altra, per esempio. No, fermi. Faccio io. Passamene uno. What? No? Tipo, Miff... Adone. Sì. La tua teoria... basata sulle tue conoscenze, i tuoi vibe, ma anche la tua religione, perché no, è che Yomaru in quanto creatura magica, perché tu hai fatto degli studi sulle creature magiche, quindi sai che i rumani... Posso provarti un secondo? Certo. Non sei in cam perché ti viene da ridere e non vuoi che io ti veda quando ti viene da ridere? Assolutamente no, perché lo sentiresti dal tono della mia voce, se sto ridendo o meno. Okay. Certo, va bene. Irumaru, che chiaramente è una creatura magica e tu sei un esperto di creature magiche, è in grado appunto di fare delle magie. Hai studiato degli animali che, consumando dei manapenni o comunque dei residui di mana, sono in grado di produrre degli effetti collegati a quel mana. Ora, tu non hai idea di quale sia il mana al quale ha attinto Irumaru, ma... la teoria più plausibile che ti viene in mente è che sia qualcosa che detesta la tecnologia e quindi il suo byproduct è qualcosa che cerca attivamente di sconfiggere la tecnologia. E come fa se non manomettendo le apparecchiature tecnologiche che ti circondano? Allora... questa teoria di Adone fa cagare a me e Sirio, però, quindi va bene. Non sai il risultato del dado. No, no, perché... sì, sì, potrei aver fatto 10, comunque direi, Adone, questo è il meglio che sai fare? No, perché io, tipo, conterrei in conto il fatto che Coso Lieto sia un avatar. È per questo che anche Mif deve mangiarne una a questo punto. No, oh, perché volete mangiare cose a caso? Non sono morto. Prendo la perla. Vado? Vai. Ringoio la perla. In che posizione sono i pezzi del robot, ma soprattutto la pistola? La pistola è ritornata nella fondina. E la roba meccanica? La roba meccanica, nel senso che si è fermata, è tornata, è rimasta comunque lì nello zaino. Ok, senti del movimento dal tuo zaino e la pistola nella tua fondina fa... bzz. Ok, estraggo la pistola e provo a sparare tipo a un albero. Mi rolli un D100? Salterai il cavallo. 70 tondo. Bello. La pistola, invece di trasformare un proiettile in energia come fa solitamente, avendo tu fatto 70, ho bisogno di un secondo. La pistola spara un proiettile che colpisce effettivamente l'albero e lo trasforma in una statua di pietra di un polpo alto 4 metri. Lieto guarda tipo la pistola. Questo è interessante. E spara un altro albero. Mi rolli un altro di 100, ovviamente. Mi dica il numero. 2 2 2. Hai sbloccato la shenanigan. La pistola. La pistola, quando premi il grilletto, assorbe l'aria intorno. Senti che fa proprio... e basta. Iniziamo sound. Sì. Tra l'altro. C'è una sola maniera, non c'è due senza... Adesso quando spari, sì, sì, non ti faccio rollare, perché rilascia l'aria che hai assorbito e fa un'onda d'aria in una direzione che toglie tipo tutte le foglie all'albero a cui hai mirato. Lieto si gira e c'è tipo gli anime quando c'hanno le stelline stilizzate negli occhi. È tipo la cosa più bella che abbia mai visto. Utilizziamola con parsimonia. E tipo Mitz si lega la saccoccia e se la tiene fa. Se questa cosa interferisce probabilmente con gli effetti della pistola, chissà. Con che altro può farlo? Lieto ha già fatto una nota mentale che è caricare la pistola con la... perché la pistola si carica a manapenni. La prossima cosa sarà caricare la pistola con la sfera di Umaru. Faccio sapere. Appena finisce l'effetto, è la prima cosa che farà. Non... a me è mai capitato tipo con i macchinari, con le trivelle, roba. Mai. Cioè, è proprio una roba. Ci delle interferenze. È strano quanto il pescione laggiù in fondo. Cioè, sono due robe che non hai mai pensato fossero possibili. Però a livello proprio di macchinari, con l'utilizzo delle mana unit, robe del genere, anche i treni, cioè, è mai capitato che ci sono state delle interferenze, robe del genere, che bloccassero la tecnologia? Ok. A meno che in un caso molto specifico tu non abbia visto un'unica situazione in cui è successa una cosa simile. Dietro non abbia visto niente di simile, no? No. No. Ok. Un caso in cui un'apparecchiatura ha fallito miseramente. Sì. È l'unica cosa che ti viene in mente. È l'unica volta che hai visto un'apparecchiatura di mana non fare esattamente quello che doveva fare. Eh sì, era con quella Delfo, quando ha generato la palla nera. E non è il momento. Ah. ma ce n'hai una nell'inventario di pallina, te la sei tenuta. Non verrà usata per quel motivo. Scusami. E Nibel, potresti chiedere a Umaru, descrivergli il polpo di 4 metri che è appena apparso, se gli dice qualcosa. Umaru, vedi quello? Ti ricorda qualcosa? È un polpo. E fin qua ci siamo. Sei proprio bravo, Umaru. E via! Chiudo la damigiana e lo ritiro. Ok, grazie. Tipo fa tap tap sull'acqua, no? Per giochicchiare. Okay, se te lo stai chiedendo, Cici, abbiamo fatto molto di peggio. Non me lo stavo chiedendo, meno ne so, meglio sto. Sei sotto controllo. Vuoi provare la pistola? E ne allungo tipo la pistola. Non voglio provare la pistola, grazie. Sotto un contratto che lega la mia anima. No, non ho sentito. Sotto un contratto che lega la mia anima. Vuoi? Non lo dici a Don. Non lo dici a Don. Quindi un contratto. Sei abbastanza sicura da qualsiasi cosa, diciamo. Sì, sì. A proposito, Yves si apre il suo taccuino, lo apre nel punto dove ha fatto il sigillo, lo rivolge verso Dune e fa: questo è nuovo, è diverso. Cioè, assomiglia a quello di al diavolo tempo fa, però è diverso. Cioè, vedi che ha delle incisioni, no? Era sulla testa del capro. Mi avvicino col cavallo e do un'occhiata ai due sigilli. Biani, ci posso farti una domanda? Vai. Che cazzo vuol dire quando due sigilli sono simili? Cioè, l'hai visto succedere due volte. La prima volta era il sigillo di Braxaras che era alterato per farti impazzire. La seconda volta l'hai visto quando Keyella ha modificato il sigillo per terra per farlo diventare un'altra cosa. Non l'hai mai visto fare se non queste due volte. Ok. Non era anche leggermente diverso il sigillo di Umaru del simbolo? Sì, però non è un diavolo quello. Quella può essere interpretazione, semplicemente, non è detto che sia... Sì, perché Livyagon è una divinità, tecnicamente, questo invece è un diavolo. Un'altra persona che ha visto un sigillo alterato è Lieto. E a quello sulla spiaggia? Sì, quello era una versione alterata di un diavolo che in realtà è un diavolo. Adone dice: allora, può voler dire tutto e niente il sigillo alterato. Quello che penso è che per qualche motivo questa capra fosse speciale rispetto alle altre capre che può avere Temofab, quindi aveva un sigillo alterato, il che spiegherebbe perché è così bizzarra per essere una capra di Temofab. Di solito Ok, sono un po' diverse. Mi scrive, vedi che si riprende il taccuino e scrive: sono le 5 passate, 5 e mezza, e quindi sta cominciando a tramontare il sole. Quanto ti stiamo? No, siete alle porte della città. Ok. Te lo sto dicendo per questo. Quando tramonta il sole va dietro, cioè va oltre la figura e quindi lo rivedete. Quindi per assurdo c'è più luce adesso che sta tramontando che non un'ora fa quando era oscurato. Però è luce rossa perché è la luce del tramonto, eccetera, eccetera. E con... volevi dire qualcosa? No, sto facendo suoni stupidi e la mia telecamera si è bloccata. Ok. State entrando nella città di Esboson e ci avviciniamo non tanto alla conclusione, ma alla parte interessante della sessione, perché ovviamente finora è stato tutto molto noioso. La città di Esboson è una metropoli solverica in piena regola. Un grande porto gremito di navi e commercianti, numerose piazze e altrettanti quartieri ben separati in modo da distinguere immediatamente quelli ricchi da quelli poveri. Nonostante la singolarità che oscura il sole a sud, è chiaro che quasi tutti se ne sono già fatti una ragione. Rassicurati probabilmente dalle forze dell'ordine, vi ricordo che alla città di Esboson operano almeno due gruppi militari, cioè l'Impero e la Legio Orbi, che sarebbero i soldati del Regno. Noi non siamo nell'Impero qua, siamo nel Regno di Scirocco. L'Impero è un outsider, quindi tutto quello che sta succedendo potreste ragionarci sopra. La vita continua quindi come in una giornata nuvolosa. I palazzi di Esboson non sono particolarmente alti, raggiungono al massimo 5 piani. C'è un solo tempio della Santa Chiesa e non ci sono tracce di edifici religiosi antichi, simbolo che la città sia relativamente moderna. Tutto sembra essere stato modernizzato di recente con un'architettura continentale. Non ci sono le case tonde in muratura che hanno accompagnato il vostro viaggio fino a qua. Non siete familiari con la città, per cui non sapete bene dove andare. I due posti che vi sembrano un pochino più interessanti sono la piazza più grande, che è quella davanti al porto, quindi la piazza del porto. Eccessiva sta canzone, la tolgo, scusa. Un pochino. Oh, ti dico, è abbastanza rilassante. E il quartieraccio, per così dire, che per qualcuno di voi è un pochino più familiare, cioè saprebbe come districarsi. Se avete in mente di andare da un'altra parte, tipo alla chiesa, c'è l'ambasciata dell'impero, se volete morire immediatamente, potete dirmi voi dove volete andare. Con voi c'è ancora Cici, che per il momento si sta accollando. E dici, Cici, sai di un posto abbastanza defilato dove possiamo alloggiare per la notte? Sono arrivata ad Esboson da 2 giorni, quindi no. Ok, il più lontano dall'impero a questo punto. Sì, eviterei l'ambasciata che è a nord-ovest. Ok, grazie. Okay. Quindi est, sud. Magari possiamo cercare un'altra chiesa, una locanda, un... Mi pare onesto, qualcosa. Cercare una chiesa, sì. Yeah. L'altra volta è andata molto bene. No, ma infatti, cioè, chi sono io per... D'accordo. E ora ci hanno aiutato. Adone? Sì, ci sto. Bene. Tutti d'accordo per andare in chiesa. L'effetto della cosa finisce e la mano smette di muoversi e la pistola rifà. Addio, pistola divertente. Shenanigan. Questa me la devo scrivere, però il shenanigan deve entrare nella... la chiesa è esattamente come siete abituati, è una piccola cattedrale. Nel senso che è una cattedrale, ma essendo Esboson non particolarmente importante, è di dimensioni ridotte, non è come la cattedrale di Oclica che era mastodontica. Ha un'architettura continentale, quindi chiese italiane del 500-400. Le porte sono aperte e non è attiva nessuna funzione. Il vescovo, perché essendo una cattedrale c'è un vescovo, sì. Di che sappiamo di che culto? Santa Chiesa. Santa Chiesa, ok. Certo. L'unica vera chiesa. Sì. Il vescovo, perché nelle cattedrali c'è il vescovo, è un uomo biondo con gli occhi azzurri che sta fumando mentre legge un giornale in un angolo della chiesa. L'interno è esattamente come le chiese a cui siete abituati, cioè delle panche, un'effigie sacra che non rappresenta né Dio né il suo avatar né niente, cioè un simbolo religioso, tendenzialmente un triangolo con dei ghirigori, e tanti fedeli che sono seduti sulle panche e stanno pregando o usufruendo dei servizi gratuiti della chiesa. Molti sono in fila ad aspettare il loro turno. Ditemi cosa volete fare. Chiedere al vescovo se ci può ospitare oppure consigliare un posto dove stare. Il vescovo, che sta leggendo il giornale, e noti che non è una sigaretta, è un sigaro che è in mano, proprio una roba grossa, ti guarda e dice: da dove venite? Non di qua, siamo turisti. Chiude il giornale e dice: la cattedrale non ha spazio abbastanza per voi cinque. Potete mangiare, potete bere, potete guarirvi se siete feriti, ma per dormire vi consiglio la piazza del mercato. Troverete sicuramente qualcuno che vi accolga. Almeno che non siate in brutti giri. In quel caso il quartiere nero fa per voi. No, no, grazie, terremo la prima. Posso leggere il giornale? Certamente. Te lo passa. Mif, legge il giornale. Il giornale, come da molto tempo a questa parte, ha un bollettino della situazione della piaga bronzea e rispetto a quelli che avevi letto di recente sembra più rassicurante, cioè sembra che la piaga sia effettivamente contenuta. Il prezzo da pagare è stato di giustiziare chiunque cerchi di superare un bordo. Un piccolo prezzo da pagare. Però effettivamente la piaga non è più uscita dalle regioni dell'impero infettate e dai due cantoni del regno che erano stati infettati. Trice, per esempio, non ha nessun caso di piaga bronzea rilevato. Tuttora non esiste una cura, non è stata trovata una cura, e quindi l'atteggiamento dell'impero è di mettere in quarantena, dove mettere in quarantena vuol dire le persone che hanno contratto la malattia, perché non esiste un modo per guarirle. E questa era la prima notizia, il bollettino della piaga. Oltre a quello ci sono notizie secondarie, chiaramente non ci sono ancora le notizie sulla creatura a sud, si parla di altre cose. E i libri di Esboson, cioè i giornali di Esboson, sono chiaramente più interessati ai fenomeni locali, quindi al fatto che l'impero ha inviato delle truppe per aiutare la popolazione a difendersi dai pericoli degli ultimi giorni, perché c'era stata una crescita, un aumento delle bestie, dei mostri marini, specialmente a sud. Evidentemente ora è chiaro perché c'è stato. E le altre notizie riguardano più che altro fattori economici, il fatto che un sacco di gente cerca religioni New Age, che insomma c'è pieno di superstizione nell'isola. E a fattore politico invece? La politica di Esboson è molto secluded, cioè a loro non interessa così tanto degli altri. Nonostante siano di fatto una provincia del regno di Scirocco, sono autogovernati. C'è una Legio Orbi che opera e ha, non dico diritto di vita o di morte, ma comunque ha un'importanza assoluta, visto che fanno da polizia, esercito e in caso di necessità pure da giudici. Però a parte quello, la politica è molto alla buona, cioè tra di loro scelgono chi nominare come sindaco e lui si occupa di gestire i problemi. Lui insieme alla sua giunta comunale, mi viene da dire. Mif chiude il giornale di Aeroporto di nuovo al vescovo e gli fa: scusami, dov'è che posso inviare una lettera? Qua. In modo legale o illegale? Un nuovo qual è il più veloce? Quello illegale. Perfetto. Facciamo quello. Nel quartiere nero c'è un palazzo il cui muro esterno è stato pitturato completamente di nero. Lo riconoscerai per forza. Ha okay. Un anello nero sulla porta. E la signora offre servizi di questo genere. Quanto? Se la tua lettera è molto piccola, un solo manapenny. Grazie mille. Sempre lieto di aiutare le pecorelle. Lieto? Vabbè. E lieto accompagna Cici al... Ah, è vero, deve guarirsi. Acquiarsi, sì, nel posto più vicino possibile, perché comunque... Domanda, mangi una caramella prima? No, scherzo. No. Non ancora. Vogliamo ancora uccidere Cici. Tra l'altro le schegge di legno avevano infettato la ferita, quindi era successo un pastrocchio lì in mezzo. E viene guarita completamente e ritorna in forze dopo un paio di minuti. E le faccio sapere che se vuole passare la notte con noi è benvenuta, se non ci vuole mai più vedere ci sta. Si tira su il cappuccio della tunica e dice: finché sono in un posto con così tanta gente dell'impero, gradisco la vostra presenza. Non penso c'è niente di contrario da parte nostra, comunque. Penso di parlare anche per i miei compagni. Così. Fa vedere un pochino la lancia che le hai dato e dice: me la cavo comunque in combattimento. No, sì, no, ma quella la puoi tenere per un po', è un ricordo di un amico. Perfetto. Intende dire che all'occorrenza sa menare le mani. Ci aiuterà. Se non sei una cazzo di capra di 400 metri ad ucciderlo. Il tuo superiore ha detto che te ne intendi di magia naturale, vero? Non direi che sono un'esperta, ma i miei genitori mi hanno insegnato le basi. Beh, non hanno insegnato neanche quelle, quindi è meglio di niente. Sapresti darmi una mano? Sono, diciamo, un novizio. Non c'è problema, io sto guardando Adone che è tipo un professore di magia naturale. Ma io non lo so. Sì, vero, non l'ha mai detto. Scusate, mi sono un attimo distratto, cosa? Di W. Adone dissociato, che l'avevi mai detto. Ci sta, è in carattere con quello che sta succedendo. Quindi, no, Cici... No. Il Nibel ha chiesto a Cici se gli può insegnare la magia naturale. Ah. E Cici dice: quello che so certamente. No, Adone croce le braccia, guarda Nibel, ma non dice nulla. Ci sta. L'unica magia grossa che so lanciare è Storm. Il resto è più comprensione della natura e dei fenomeni naturali e cose del genere. È giusto per capire le basi. Mm-hmm. Diciamo che sento di poter canalizzare in maniera diversa questo potere, però ancora non ho gli strumenti per poterlo fare. I berber sanno tutti usare la magia e dubito che sia una cosa razziale, penso che sia più l'ambiente in cui cresci e che te lo insegnino da piccolo, ma sei un berber per farlo. Io sono di Apeira, non ho mai avuto a che fare con la magia. Ok. Lavoravo in miniera. Nei prossimi giorni cercherò di istruirti. Ti ringrazio. Ok. Si avvicina lì e gli fa: io e te dovremmo andare al quartiere illegale e tu mi servi. Mi sopracciglia di dietro, sono tipo: ok. Andate tutti. Andiamo. Devi inviare una lettera. Sì, anch'io devo inviare delle lettere. Devo cercare un posto dove dormire prima. Mm-hmm. Sì, è presto, cioè potete farlo dopo. Però meglio prendere le stanze il prima possibile, almeno sappiamo dove tornare e dove rincontrarci eventualmente. Ok, quindi vi state splittando. Again. No, per capire se vi state splittando o se volete andare prima a cercare le stanze e poi... Secondo me non conviene, lo dico in meta, secondo me conviene che andiamo prima a prendere le stanze, abbiamo il posto dove tornare, poi andiamo a cercare poi eventualmente dopo. Va bene. Allora, la voglio fare velocemente così ci appropinquiamo a finire, che mi sembra che Sirio stia mollando il pezzo, vero? Scusate. No, vi dico solo una cosa bella, io teoricamente presto dovrei avere Rintalin. Hai visto? Stonks. E... La locanda la potete trovare o vicino al porto o anche quella nel quartiere malfamato. Chiaramente vicino al porto costa di più. Non c'è una via di mezzo. Possiamo rivendere i corni con quello che abbiamo guadagnato. Ragazzi, a parte che la locanda dal porto costa 2 monete per 2 stanze. Quindi, mentre costa niente praticamente. Esattamente, sì, costano poco. Okay. Ed è compresa pranzo e colazione, eccetera. Senza contare che 2 di voi potrebbero non dormire, ma questo è un altro discorso. Allora, non dai nell'occhio. Ma dunque, qui due stanno per terra, non dormono. Vero. Abbiamo fatto nel patrono maledetto. È vero. Sì, sì. Vabbè. Erano altri psicopatici. Tempi. Sì, quindi porto o... Dai, andiamo al porto. Trattiamoci bene, che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Vi descrivo velocissimamente il mercato. Il mercato del porto è il mercato aperto, ha l'equivalente di questa frase in lingua locale. Ci sono diversi banchetti disposti tutti intorno alla piazza centrale, hanno delle tettoie, delle tende per coprire dalle intemperie, e alcuni banchetti sono fissi, cioè sono proprio, hanno degli assi che le tengono lì tutto l'anno. Tutto intorno ci sono dei palazzoni, alcuni dei quali sono palesemente delle locande. Ne scegliete uno a caso che ha il nome un po' più interessante degli altri e in breve tempo riuscite a concordare un prezzo di 2 monete per 2 stanze. Potete dividervi come volete nelle 2 stanze. Lo farete dopo, voglio arrivare all'ultima cosa così almeno chiudiamo la sessione. E avete prenotato le stanze, quindi tornerete lì a dormire, la prossima sessione siete riposati. Io vado da Don e dico, pensi che dobbiamo tenere Mif e Lieto insieme? Si dice sì. Sì, sì, sì, è assolutamente fondamentale. No, Adone direbbe, chiediamo a Cici se va bene dormire con noi. Diciamo, spieghiamole la situazione. Sì, sì, non c'è problema. Ok. Allora, Lieto e Biff dormono assieme, I guess. Bene, abbiamo già fatto la divisione delle stanze. E quello che succede, succede. Poi guarda Nibir, no? Guarda Adone che sì. Comunque a questo punto, scusatemi, Adone dice, comunque Nibel, io sono laureato in magia naturale. Ah, non lo sapevo, non me ne intendo. Non gliel'avete mai detto, proprio Cristo, non lo sapevo. Adone sì, ti guarda e dice, il coniglio, la magia, la spilla. Io picconavo la pietra, non so, cioè... Il coniglio pensavo lo tirassi fuori dal cilindro. Il coniglio è ancora lì tecnicamente, lo tiro fuori dallo zaino. Non ha capito che il coniglio è magico. Il coniglio per lui, esatto. So malapena quello che so fare io, figurati quello che sanno fare gli altri, cioè, come potevo saperlo? Per me tutta la magia è uguale. Va bene, sono praticamente professore di magia naturale, credo di saperne più di Cici, con tutto il rispetto. No, sicuramente. Se puoi aiutarmi, allora, per comprendere un po' meglio la mia situazione. Non mi hanno neanche accettato al corso di magia naturale. Io credo per il colore della mia pelle, però non ho le prove. Ti do una mano anche a te se vuoi. Sì, lo apprezzerei, grazie. Studiamo assieme. Dov'è che hai fatto richiesta? Alla sezione di Oclica di magia naturale. Io vengo da Oclica, come si sente dall'accento. Ok, non so se sia per il colore. No, quello è un insulto, Mif. No, non so se sia per il colore della pelle che non l'abbiano accettata, cioè è il fatto che sia berber, che è un'altra cosa. No? No, è quello, il fatto che la pelle è scura. Ha ragione. Ha ragione. I neri non berber. Ah. Infatti... Cioè, lei è tipo... possiamo uscire. Io so di pelle relativamente scura per via di mia madre, ma mia madre era di Apeiro. Sì, no, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, cioè perché io non mio marito. Sono berber. No, no, io non sono berber e non ho gli stessi... cioè, vedete che mi sono in difficoltà, papà. Andiamo a spedire questa lettera. Hey. Vi accompagno se non ha un problema. Per strada, Mif, scusate, lo so che vogliamo chiudere, ma... tra chiede, a chi devi inviare la lettera? Mi fa, alla zia di lì, sì, di Lieto. Beh, più o meno. Alla zia di Lieto, è letteralmente la zia di Lieto. È letteralmente la zia di Lieto. È la zia di Lieto. No, ma c'è la E. Teniamo. Teniamo la buona. Dai, è la cugina di Lieto. Cugino, forse. Vedi che dice fuori Lieto, no? Cioè, dice alla zia di Lieto. Poi vedi, un attimo, pausa. Beh, effettivamente anche la zia di Lieto. Alla zia di Laia. Per... comunicargli che gli è morto il nipote. Condoglianze, dice Cici. È un'idea. Beh, sicuramente l'inferno non te lo dirà, quindi... Arrivate nel quartiere nero e dopo un attimo un edificio nel quartiere malfamato, il cui esterno è completamente pitturato di nero, vi si palesa davanti. La porta di legno ha quella che non è un anello, è una corona nera. Immaginavo. Leggermente on the nose questa cosa, proprio tanto così. La insegna tradisce che si tratti di un antiquario. Avremo bisogno degli anelli. Intanto sì, esatto. Mi tipo, si toglie i gemelli di valore, gli orecchini, quelle cose lì, insomma. Cici se ne esce con, ma questa è la mafia? Sì, mia madre è della mafia. Io tiro fuori l'anello, tipo, lo faccio vedere. Cici si gira verso la creatura gigantesca. Va bene, dai, entriamo. Se ti consola, io non ho connessioni con la mafia. Neanche io. Andiamo. Uno di voi sta mentendo, forse non di proposito. Dicevo. Dicevo. Ti chiedo aver capito, Vianic. Chi se ne frega, entrate tutti insieme. L'interno è un negozio di antiquariato che svolge anche da punto di appoggio per i membri della Corona Nera e come servizio per spedire lettere in tutto il mondo. La proprietaria è una donna tra i 30 e i 40, con i capelli neri, palesemente tinti, cioè non è il suo colore naturale, è un nero quasi blu, proprio artificiale, che sta picchiettando sul tavolo quando vede tantissime persone, per i suoi standard, 5 persone entrare, vi squadra, cerca di capire chi siete. Salve! Nibel, l'anello. Chiudete la porta, per favore. Porta chiusa. Come forse saprete, essendo colleghi, Esboso non è esattamente un polo della famiglia, quindi... dobbiamo gestire le cose con un po' più tranquillità. Mi chiamano Promezia. E assomiglia a una promessa che conosciamo o... No, la vera domanda non è quella. Che taglia di seno ha questa? We go again. Una quarta. Quindi è una promessa vera. È una media adesso. È diventata una media. Però i vestiti baggy, quindi potrebbero essere di più. Adone guarda tutti in faccia, dice. Ah, certo, sì, Promezia. Anche mia madre si chiama Promezia. Pink anche Wind. La mia. Ah, Promezia. Nome comune nella famiglia. Eh sì, lo so. Dovemmo spedire una lettera. Lei prende genera con la stregoneria un foglio di quelli contratti, praticamente, cioè è uguale ai contratti. Ok, quello non lo Lieto. Firmo. Lieto. Ho una lettera da parte di tua madre. Lieto fa tipo il double take, excuse me. È arrivata 5 giorni fa. E come ci vanno a sapere che saresti venuto qui? Ti porge la... Questo è l'altro motivo del double take. Ti porge la lettera, non la legge, declama ad alta voce. Ok, e quindi puoi metterti un attimo a... Sì, sì, sì, vi metto nell'angolino apro la mia lettera di merda. Voi invece, chi siete? Io devo spedire. Siamo con... Posso sapere il tuo nome? Mif. Mif Standout? Mi fa un attimo un... Sì. Questa è arrivata 3 giorni fa. Da chi? C'è scritto sulla lettera. Ok. Ti porge la lettera. Voi due? Adone, Uthred? Oh, sì, sì, sì, certamente. Adone. Qua mi risulta Adone Kaltenfeuer. Sì, il mio nome... Com'è che si dice da scapolo? Da Celibe. Nubile. Però è... Celibe e Nubile sono i due, Celibe. Sì, dipende quale dei due. Sì, sì, però... Ho una lettera anche per te. La prende. La Berber parla prima di Nibel e dice: io non voglio niente, anche se ne hai una. Chiaro. Tu invece? Nibel. No, non mi arri... Vedi che si materializza una lettera. That's weird. È indirizzata a Nibel. Non c'è un cognome. Vieni. La guardo. E te la mando. Sì. Se evito di mandarla al tuo gruppo è meglio. No. E comunque, mentre voi ricevete le vostre lettere, Lieto è nell'angolino, apre la lettera, la cera di Lieto cambia di 2 shade in meno. Lieto in questo momento è bianco come la lettera. Adone lo vedi senza cosa, si siede, cioè non c'è una sedia, si siede per terra. Miff, che era al bancone e aveva la lettera da spedire in mano, posa la lettera e fa no. Sì, sì, sì, gratta il naso e dice: vedi che ho fatto bene a non prendere lettere. Mi rivolgo alla donna della corniera e tipo: l'hai letta per caso? No. E ho molto rispetto. Potresti sai da chi viene questa lettera? Ho letto il mittente. Il mittente è effettivamente la persona che dice di essere. Il servizio postale della Corona Nera è molto affidabile, se è quello che mi stai chiedendo. Ok, e la seconda domanda è: c'è stato un cambio di regime negli ultimi giorni? Se c'è stato, non mi è stato comunicato niente. E io sono delle basse sfere, per capirci. Quindi, come ben sai, all'interno della famiglia, se non devi sapere una cosa, è meglio che tu non la sappia. Ok. Cos'hai detto? Tua madre è stata deposta? No. O è stata no. Mommy went up. Immaginavo. E... vabbè, come hai detto, vabbè, grazie per mezza di Esposon. È il nome della famiglia, non è il mio vero nome. E lo so, vuoi una reference del futuro? Vabbè, noi dovremmo cercare una mana unit in questo istante. Questo lo faccio sapere ai miei combinitoni. In che senso? Se qualcuno di voi può cagare una mana unit in questo istante, è il momento di farlo. Non mi interessa come. Lieto, dietro e tipo ripiega le lettere. Cos'è successo? Promezia sta arrivando. E qua non è niente. Promezia sta venendo adesso, sonno. Tua madre. Tua madre. Ok. E adesso... Diciamo che adesso sono un nobile anche io. E dai limiti. E vedi che Adone alzo un attimo la testa e dice: perché un problema? E che di solito quando passa mia madre a fare queste cose e guarda tipo di nuovo la lettera, non è possibile, però non me lo meritavo nella vita. Non finisce mai bene. E se lei dice di non essere qua, molto probabilmente non dovremmo essere qua. E oggi è il... Che giorno è oggi, Bianic? 22 ottobre. Qualcosa che giorno è oggi? Che è già 22 ottobre, 22:10. E Bianic, una domanda. Quando è stata spedita la mia lettera? C'è scritto. No, arrivata. No, le lettere sono istantanee. Istantanee, ok. Dio. E ci abbiamo, I guess, 4-5 giorni scarsi? Neanche. We schedaddle, boys. Cioè, ce li avevamo quando siamo arrivati. Oggi è il 22. Tomorrow it... Domani non dobbiamo essere qua. Si gira verso la Promezia e fa: quanto hai detto che è ramificata la corona nera ad Esposon? Questa è l'unica sede di cui sono a conoscenza. Quanti contatti avete e possibilità? Ad Esposon praticamente niente. E anche io non faccio nulla di illegale proprio perché non abbiamo un piano. Non avete una sorta di... l'equivalente di intelligence a quei tempi. Non mi viene in mente altro in italiano. Sì, eh. Non ad Esposon. È territorio troppo difficile da controllare. La corona prolifera bene dove il controllo del governo è superficiale. Nif si gira verso Nibel e gli fa: com'è che si chiamava il tuo amico? Nibel sta leggendo la lettera e vedi in faccia il volto come se fosse un cane che ha affiutato qualcosa, e chiude la lettera e la piega e te la porge e dice: Adelfo. Vediamo dopo. E prendo e esco fuori dalla... Io ho la lettera di Nibel in mano in questo momento. Sì, te l'ho lasciata. Gliela faccio leggere? Se vuoi. Vai. E mentre sta uscendo urlo tipo a Nibel: spero tu stia andando a cercare una mana Yuni. Effettivamente. La vuoi leggere ad alta voce, sa? Ok. Da Donos a Elius a Nibel. Ciao Nibel, ti ricordi di me? Sono il tizio crocefisso che avete liberato. So che dovrei stare lontano dalla corona nera, ma ho corso il rischio e ti ho mandato comunque un messaggio per dirti che ho scoperto qualcosa su Adelfo. I miei conoscenti dicono che ha lavorato per un periodo al mercato di Esposon prima di sparire. Nessuno sa quale fosse il suo problema, ma sono certo che stesse scappando da qualcosa. Riconosco chi mi somiglia. Tocca a te capire da cosa, ma soprattutto dove, si possa essere nascosto. Alla fine non ci sono molti luoghi dove la gente delle centrali non riesce a mettere le mani. Bocca al lupo per la tua ricerca. Ho fatto incazzare un sacco di persone, forse è meglio abbandonare la chiesa dove stavate. E se ti chiedono una teghiera, tu non sei niente, ok? Mi la chiude e fa: probabilmente è andato a cercare una mana unit. Stavo pensando di andare a cercare quello stronzo, onestamente. ha un debito o no. E se no bisogna assaltare una centrale, non siamo pronti per assaltare una centrale. O convinciamo il coso fuori, il serpentone, ad assaltare la centrale per noi, oppure non si fa. Cici è tipo... Cosa c'è? Cici, hai una mana unit in tasca, Cici. No, ho 18 mana pe- 15 mana penny. Ero più incuriosita dal vostro commento sul serpentone. Voi sapete cos'è? È una creatura marina, evidentemente. Ci sta pregando Liviagon. That much we know. Questo raga. È strano. Beh, il rosario, insomma, dai, è un po' un pensiero che ci siamo fatti. È ecco. Un animale. Sì, ma non è il primo animale che vediamo, che sappiamo pregare una divinità. Già. Siete un passo avanti all'impero. Ah, non è vero. L'ho visto non prima. Penso che siamo un passo avanti dell'impero. In che senso siamo un passo avanti all'impero? Loro non pensano che sia per motivi religiosi lì. Come, cosa, cioè, qual è la loro teoria? Avete mai sentito la leggenda di Senic? No. Come cazzo siete vissuti tutta la vita? La leggenda di Senic è che nel Mar Senico c'è un gigantesco mostro marino, appunto Senic, che gli dà il nome, e che mangia tutte le navi che vanno troppo al largo. Senic... Senic è quello che aveva nominato prima il... la capra gigante, vero? Adone catatonico, però sì. Ok. Oh, è interessante. L'idea dell'impero è che ci sia qualcosa sull'isola che quella creatura vuole mangiare, o forse direttamente tutta l'isola. Periodicamente nella storia che evidentemente non viene divulgata così tanto, il serpentone esce fuori, mangia qualcosa che non dovrebbe mangiare e poi riscompare negli abissi. Quindi nessuno ha mai collegato Livia con scritto gigante come una casa? Non ci Vabbè. Sono informazioni su questa cosa, la prima volta che compare con delle scritte sui... Ok. E quindi è diventato anche credente nel mentre, fantastico. Sì, non un buon segno. Nif intanto va dalla tipa e le porge la lettera che doveva spedire e fa... Magari ha fatto qualche correzione nel mentre, dopo ti dico anche quale. Ma spedicimi questa. Mi sa che ne avrò bisogno. Devono essere meno di 100 parole, altrimenti mi devi dare un altro manapenne. Dovrebbero essere meno di 100. Contale. Cioè, quando poi scrivi la lettera devi contarle. Esiste il word count online. Adesso te la devo trovare. Sì, sì, sì, no, ma lo facciamo out of game. Semplicemente devi shrinkarla. Avete altre lettere da spedire? Le lettere sono istantanee, correct? Sì. Però che non so quando la persona arriverà a recuperarle. Deve andare in uno dei luoghi adibiti. Ok. No, io sono a posto, grazie. Vedi che Adone in maniera molto ghostly si è avvicinata a Mif. E ne ha una. 101. Una in più. Togli una parola. Ciao, dai. Togli la parola. Togli il preambolo, togli. Effettivamente. No. Ciao, togli il nome. Ti ho fatto 99, ne ho tolte dai. Due, va bene. E letteralmente ho tolto il appena puoi. Ok. Fine. Sì, sì, sì. Dicevi Adone? Adone si avvicina a Temif. Hai un attimo di dissonanza perché per un attimo ti sembra di vedere l'Adone che hai conosciuto per la prima volta, quello spaventato che è caduto dal tetto. E lo senti dire: avresti una Mana Penny da darmi. È tutto a posto. Vedi che sospire. Cioè, mi fa la prima volta che senti che è il tono dolce. Ti fa una frase e ti dice: qualcuno è tornato a ricordarmi della mia stessa umanità. Che cazzo di frase è? Sei uno psicopatico? Però è vero, in questo momento Adore si è ricordato di una persona di cui... detto. Ah, ok, perfetto, perfetto. Adore ignora il commento. Dice... Ti porge il mappenny. Ce ne vorranno molte meno. Vaffanculo. Io ho una domanda, Pjanic. Ma tecnicamente Sylas è sparito da molto prima di quello che è scritto. Non ti dico niente. Anche perché ora c'è il vostro cliffhanger. E volevo solo spostarmi un secondo, visto che è mezzanotte, su Nibel. E vorrei che mi descrivessi lo stato d'animo di Nibel prima, più che tutto il resto. Poi il resto lo cominciamo alla prossima sessione. Ma Nibel ha avuto una... diciamo una conferma o comunque una direzione, e nel senso, mentre dovrebbe ragionare un po' di più sul ok, allora se sta cercando protezione dalla centrale, magari non sarà vicino al mercato, sarà magari nella cioè poteva anche direttamente chiedere alla tizia lì delle lettere, eventualmente sarà nella malavita, eccetera eccetera. Però Nibel sta caricando testa bassa, sta andando al mercato per chiedere informazioni, per vedere se c'è qualcuno che l'ha visto. La tua... ci sta pensando tanto al momento. Perfetto, l'episodio finisce con te che sei talmente focused che dai delle spallate alla gente per strada e non ti curi del fatto che alcuni di questi erano soldati dell'impero, e loro, vedendoti in quello stato, non ti dicono niente. Ma arrivi nel mercato. Faccio una cosa che te la scrivo. Vai. E nel mercato c'è un tizio losco che non è la persona che stai cercando, ma che più di tutti ha il vibe di sapere cosa stai cercando. E la prossima sessione ripartiremo dal tizio losco col cappello e gli occhiali da sole che fuma. Bellissimo. Niente da eccepire. E io la finirei qua, cioè mi sembra un ottimo punto per chiuderla. Giusto. Se volete scrivere per bene le mail, le lettere o fare altre cose del genere, potete, se nel lapsus, potete farlo.